Pathfinder Campus. Podcast italiano, delle play di Pathfinder. Aspetta, ricordatemi da dove si cominciava. Buoni ragazzi. Da quando abbiamo picchiato quello lì grosso con la testa di serpe, finisca quel mostro. Ah, è vero, l'orso drago, l'orso con la coda di drago. Piombo. Con la coda di serpente. Tanspir. Beh, quello che abbiamo ammazzato tipo... Allora, ok, quindi la scorsa sessione si apriva con il Tanspir, orso, serpente. Esatto, che dovete sconfiggere. L'abbiamo sconfitto e la voce registrata... Sì. Che ci aveva promesso Ricky Premio e Cotillon, ci ha indirizzati come ricco premio verso un mercatino abbandonato, un venditore di oggetti magici abbandonato che era già stato saccheggiato, tranne per quattro bacchette, tre di fast healing e una di haste molto, molto simpatica. E ok. Dopodiché abbiamo analizzato un edificio vicino e lì... Dopo che Damasco ha avvertito un ronzio con il suo udito sopraffino, abbiamo visto che sul soffitto ci stava osservando un bimbo mosco, un mosca, uno schifido, per chissà che cosa, un lurido accuser, sarà accuser, che è un diavoletto che è sceso e, riconoscendo di essere stato beccato, ci ha sostanzialmente fatto tante domande in cambio di eventuali informazioni che lui poteva offrirci. Noi gli abbiamo offerto l'informazione più succulenta possibile, cioè che almeno per quello che crediamo, siamo venuti dal di là del muro di sabbia, o comunque per quello che ci è sembrato di capire. E lui, gli abbiamo fatto vedere appunto la mente di Damasco per provare questa circostanza. Esatto, lui l'ha trovata interessante. E lui ci ha creduto e l'ha trovata super mega interessante, ci ha offerto praticamente un accesso completo alle informazioni della città. Ci ha detto un sacco di cose importanti, cioè che la città è divisa, è in qualche modo dominata, è piena di ombre. Però a parte le ombre c'è questa setta di cultisti che sono arroccati in un tempio. Sì, un tempio più che altro in una zona della città che tipo, è difesa da mura, perché la città anticamente era più piccola, poi è stata espansa e quindi praticamente ci sono delle mura interne alla città. Ho capito, quindi in questa specie di cittadella fortificata all'interno della città ci sono questi cultisti, che sono dei creatori di demoni, nel senso che... Cioè dei demoni artificiali. Esatto, mentre prima i Suli adoravano i diavoli... Dopo i vari scazzi che hanno avuto con loro, hanno deciso di crearseli da soli, quindi sono sostanzialmente degli invocatori, dei summoner, esatto. che evocano questi eidolo nubba paua con mille braccia che fanno 10.000 attacchi. Però vedete che sono quasi tutti su due zampe. Sì, è vero. Questo mi dà un po' di fiducia quindi nel genere umano. Esatto. Nel genere suli. Questi mille... Eidolon. E ci ha rivelato però che... sui nostri compagni sono stati catturati da questi cultisti e che sempre nella cittadella si trova questo macchinario per far cessare il campo antimagico. Nella banca c'è un'altra cosa. Nella cittadella c'è il congegno che noi dobbiamo disattivare. Quindi per un caso... Leggiamo nel tempio. Nel tempio. Quindi noi dobbiamo andare e non solo liberare i nostri compagni in modo opzionale, diciamo, ma anche soprattutto disattivare... il congegno. Per arrivare, anziché combattere frontalmente contro un miliardo di cultisti, ci ha consigliato l'accuser di prendere una strada laterale, o meglio, sotterranea, un passaggio segreto che parte dalla banca, costruito dai banchieri, suli che si erano piegati al volere dei diavoli durante il vecchio assedio della città da parte dei diavoli. Però... No? Però il problema è che questo passaggio è protetto, sigillato da una password, da una parola magica, e l'unico a conoscere la parola magica, guarda un po', è il nostro amico appassionato di parole magiche, la vocina, cioè la voce registrata, per così dire. Detto anche il gobbo. E quindi noi dobbiamo, a nostra volta, per ottenere la parola magica, soddisfare questo signore, questo tizio, e l'unico modo che abbiamo di farlo è distruggere il Behemoth, che è un mostro che abita la città e Fortissimo. che è fortissimo e con cui questa nostra voce registrata ha avuto un Rapporto. cattivo rapporto, che è tipo Sì. sterminato i parenti, non si è capito bene, Non si non sa bene, non lo siamo sapete riusciti a bene. capirlo, e vuole a Però, tutti i costi prima che diciamo prima di di sganciare la password. che gli dobbiamo riportare vivo o dobbiamo No, ucciderlo? dobbiamo sgozzarlo. Infatti siamo andati da lui e ci siamo A messi parte il Behemoth non può d'accordo. morire perché tanto si rigenera lì, cioè, torna sempre in No, vita. quello lì era il Tanspear. Il Behemoth non credo che No, abbia. anche Non lo sapete. i Non lo sappiamo Behemoth, ancora. vabbè. Anche perché ho fallito la Sì. prova, ma con un No, me lo tiro. ricordavo io per la propria campagna, quindi non lo so. Certo. Ah, il Behemoth, è vero, quello che abbiamo incontrato in Non un'altra posso campagna aveva morire. 1000 di rigenerazione, però non lo sappiamo però. Devo Bene. andare in biblioteca, però, Esatto, Behemoth. aspetta, perché praticamente qual è un'altra cosa? Che non tutti sono stati catturati e portati nella cittadella, ma come si chiama? Azalea, La cannibala, la cuoca, la la nostra chef, cuoca cannibale, oracolo diabolista, tipo la quello. master chef. È stata catturata. No, non è stata catturata, è riuscita a fuggire, magari proiettandosi nel suo piano dei Demiplane, oppure non si sa. Esatto, qualsiasi Esatto, è cosa. riuscita a fuggire e si è rifugiata, pare, nella biblioteca, secondo le informazioni del nostro accuser. E noi siamo proprio diretti lì, perché prima di andare ad ammazzare il Behemoth abbiamo deciso di rescue la nostra carissima amica, che si prospetta essere una forte alleata. Siamo arrivati alla biblioteca, dopo Esatto. il diplomatico scardinamento della porta da parte di Baca. Su consiglio di Peraltro su Abra. consiglio di Aaron, per una volta. Io che volevo semplicemente bussare. Esatto, abbiamo incontrato un simpaticissimo archivista Che io. apparentemente stralunato che ci ha detto senza problemi, ha detto, vabbè, è una città normalissima come qualunque altra, Lì che volevo perché avete minarlo, rotto la porta, adesso me la ripagate, però alla fine Baca è riuscito a convincerlo e questo qui che si chiama Faraon ci ha portati. però. No, gliel'hai chiesto tu, nel andare negli archivi dei Esatto, io gli ho giornali. chiesto di portarci negli archivi di giornali per Indagare vedere un sulle po' navi. l'ultimo giornale. Ci ha condotti lì, appunto sembrava che lui fosse sotto un incantesimo o qualcosa di simile, perché non si rendeva, pareva almeno che non si rendesse minimamente conto. Siamo arrivati nell'archivio dei giornali, o quello che ne restava, e abbiamo scoperto che era tutto distrutto come sospettavamo. Ed è un trappolozzo. Ed era un bel trappolozzo perché siamo stati circondati da altri 4 o 5 Bastardi ignobili. Io che volevo, ricordo chi volo prende a calcio in culo il coso, l'ho già sollevato e tornano fuori, no? Sì, però io mi sono opposto perché? Perché mi sono opposto? Perché lui non Quanta sembrava intelligenza e mentire. saggezza. Cioè, la cosa particolare è che questo qui È paradossale. ci ha mentito, ma cioè praticamente Master non ha neanche fatto le prove perché era talmente tanto bravo a mentire. Vabbè, io ho detto che voi non vi siete accorti, vi pare strano perché era proprio una roba, cioè eravate tutti straconvinti. Esatto, eravamo tutti assolutamente convinti che, malgrado poi. Probabilmente, però, adesso pensandoci bene, abbiamo detto che è un po' seduto, probabilmente quando parlava diceva la verità, perché forse davvero lui Infatti non io pensavo sapeva. una roba del Non lo genere, cioè che, sapete, però non lo vedete? sappiamo. Vabbè, è una cosa che ha pensato il mio con Dal povero, l'ha Leonde. pensato lui per me Tra con. l'altro ci hanno anche colti di sorpresa, no? Sì, Ah, sono no. beh, perché lui ve l'ha Ricordato. detto, quindi no. Ah, ok. Cioè, loro sono arrivati lì Ma non così. ce ne siamo accorti che strisciavano, cioè per sapere. Oh sì. Sono entrati da delle Ah, porte. dalle delle porte, ok. Ah, sono così belli geometrici. Sì. Vabbè, Ok. loro ci Erano 5 aspettavano. in Sono avvicinati come tutto. i Nazgûl Io su pensavo al. che. Mina, no, com'è che è Come si lì? chiamava il posto? Vabbè, perché. Col evento. Sì, ho Col capito. evento, Sì, ne rimasti bravissima. 40 nel. Ah, si chiama con l'evento, tanto Basta. Il giudizio della rete. Che Esatto. pende. Ok. Ma sono umani Le questi molte utilità dello cosi? schermo Sono del suli. Mac. Sì, nel senso, sono, scusa, sono Umanoidi, suli. cioè, sì, sono. Praticamente Non sono umani, solo che hanno le braccia di fuoco. sono bestie Anche schifose gli occhi. come Cioè, tu avevi umani braccia di perfettamente, cioè fuoco? sono suli perfettamente normali. Niente bambini schifi di Mosca, quelle Scusa, i palle suli hanno là. alcune parti di fuoco, se non sbaglio, no? Le braccia ce l'hanno di fuoco. Solo le braccia? Ci si raccomando, non è che tu vai in giro Sì, sempre con le braccia di certo. Cioè, sai che casino, minchia. Tipo che ti avvicini, ti sei bucciato La città col attorno. servizio di pompieri più potente di tutto il Mamma mia! mondo. Ogni Sully è pregato di avere dietro una pergamena dell'incantesimo che gli genera acqua, 30 litri di acqua si spegne. Esatto. Dobbiamo tirare l'iniziativa? Sì, ma sta Sì, ancora. tirate, tirate. Allora, io faccio il bianco, il rosso e il blu lo fa Can tira 19. Che manca Minchia, qualcuno. Io ho Io tirato un solo un 9. ho fatto 9. Ah, come me. Tu quanto sommi? 6. 5. Bene, Bene. inizia. Io ho fatto 20 in tutto. Inizia Can. Dai, dimmi un po'. Can fa 26. Da quando ne sono solo 20? Ho tirato basso. È cambiato razza. Poi ha cambiato razza. Baka. Baka tira un Forse un 14. 14. Io 15. Avran 15. Io 12. Can Siete? l'hai segnato? Sì. Invisibility però l'avevo usato, anche se invisibility non si No. E tu mi avete usato anche qualche... No. No, l'ho usato solo invisibility che ormai credo sia scaduto. O no, no, non era scaduto, era Un un nemico invisibility. valido con buona iniziativa. Comunque io sono invisibile. Loro sono aware of my presence, ma sono invisibile. Quanto sommi, Baka? 5. Resto di 20. No, sommate uguali. 20! Inizia prima loro. Cosa? 21, quanto? Non ci provare, cocco. Non ti smentisci mai. Proprio. Cioè, 19 e 20 ci ho tirato, Che eh. palle, Quattro figa. tiro, 19 e 20. Bene. Muori, Allora. tutto a posto, vero? Prima la gira è Can. Vai. Ok. Che è lì un Direi po', fa un che passo da un metro e Adam. mezzo. Sì, fa un passo da metro e mezzo. Può farlo qua? Passare in mezzo agli alleati? Quello sì, certo, cioè, forse stai in Vuoi mezzo agli metterlo qua? alleati. Perché? Vedo proprio. Io voglio ammazzare questi due, tanto questo devo Ah, caricarlo. sì, come vuoi, va Secondo me è bene. più intelligente metterlo. Vai, vai. Beh, dai, io non c'è No, bisogno per di non farlo spostarsi. spostare. Come vuoi, dove lo metto? Dimmi tu. Puoi anche No. stare lì se vuoi colpire quelli dietro, Ah, riesce a colpire anche Sì, tre? perché lui c'ha un sacco di improved Sì, mental perché. Ok, va damage. bene. Cioè, Ignora il cose da consumo. monaco, cioè, un sacco di robe per cui ignora Bene, quello. fa l'attacco. Tu digli che fai l'attacco contro la CA più alta, che credo sia uguale. Sono uguali, se sei tutti con un No, numero. sto pensando quale dei due attacchi fai, perché qui ne ha due, Fai quello no? che ne ha di più, quello che ha più attacchi. 5, 2, 5. E 5 più haste che non ha Tu adesso. eri invisibile, avevi dichiarato cosa? Sì, sì, Sì, sì. l'avevo detto, infatti parlavo Poi ascolta la io. registrazione, Sì. Però no, però Ascolta. hai parlato, quindi mi sa No, no, solo che. sanno che ci sono. Sì, Ho parlato tranquillamente. Vabbè, io. facciamo che l'ho dispellato se vuoi, perché... Guarda, vi faccio fare quello con il Flurry Blow. Sì, esatto, fai la Flurry, che fa... Puoi anche usare la Swift Action, usare un key point e fare un attacco in più. Quindi in tutto fa 6 attacqui senza haste. No, Per qui c'è scritto 5, più se più usa il key point un fa key point. 6, Sì, esatto. con il robo 7, poi Sì. devo superare di 5 per 7 volte, quindi insomma 20. No, beh, perché sono No. come tu e Bob Fighting. Ah, ok. Quindi è 21 più Ah, no, 18? 13, un Ah, 13. sì, un 13. Magari sono 18. Vabbè, comunque buono. E no, però c'è Dimmi East, quant'è il 13 più? 21 più 13 21. più 22, perché c'è East. No, non c'è haste, Ah, non ho non è ancora ancora fatto. agito. Allora No. niente, allora sono solo 34. 34. Con i primi tre, quindi con tutti. Ma ne ha 5 di Ah, attacco. con i... Però, cioè, conta fino all'iterativo del BAB, cioè se poi si... cioè, nel senso... sono Mi tutti. fido, su tutti quanti, tutti e sei. Perché c'è... cioè, in pratica, se guardi, non sono decrescenti di 5 in 5 fino a No, 7, esatto. capito? Ah, ok, ho capito cosa Però intendi. i key Cioè, più point... basso è almeno 15, no? Quindi... Sì, andiamo Sì. qui sui key point. Segno qui. Key... No, Cioè, non c'è la uno. regola come scritta vorrebbe che uno deve fare... Certo. Cioè, Cioè. come era pensata sul manuale dell'Unchained, dovrebbe fare come dici tu. Cioè, che devi superare di 5 per 7. Però non ha Ok. senso. Cioè, nel senso... Ok, va bene. Quindi Uber ci sta nerf. se vuoi nerfare. Super Io non voglio nerfato. nerfare così tanto. Magari poi lo farò un giorno, vediamo. Cosa faccio? Tutti di 8 siamo 1-1. E... Io ne ho 2. Ma tirane... 3, Tirane puoi. tirane 4 e poi Lui tirane già 3. cluster shot nel caso di abbia una magia di 4. ghiaccio. Vabbè, più Vabbè, non... basso. No, non è pazzo. 10, 15, ne mancano 3, giusto? No, 2. Ah, 2. scusa, 6 attacchi, no? 15, Più 8, 23. 23 più 6 per 6. No, come sui fisici sono solo 6? Con l'ombo fluide, sì. Perché Probabilmente sì. strano, vabbè. quello sotto. Ah no, quello sotto c'ha il Deadly Aim. E invece non l'ho dichiarato Ah, il non l'hai Deadly fatto per Aim. quello. Ah, ecco perché sommava 1000. Più Vabbè, 12, facciamo no, così. fa No, 12, mai dai. fatto così. 6x6, vabbè, ovviamente 36. 36 più 23. 36. Più 23 fa 59. Cluster shot. Tutti su uno, cioè a meno che non muoia prima. Un attimo. Beh, No, 50. vabbè, 56 danni sono pochi. 59. Vabbè, però sti qui sono Quanti danni quindi? 59. 59. Sarà comunque una bella botta comunque. Potevamo fare un 36 in più. Vabbè, Vabbè. beh, magari non avresti colpito con tutti e tre. esatto, insomma Insomma, 18. No, cosa ho messo dicevo. l'altra matita? Potevi colpire Quella magari con bianca? due in meno. Guarda, qua c'è. No, questa è. No, ne avevo No, due quale qua. mi avete dato? Ah, ecco. No. Questo diciamo che è Su chi è uno. che l'avete fatti? 3 o Su 4? 3. 4 sei tu, giusto? Cioè, su A sei tu. Sì, A sono io. Iniziamo a eliminare subito quello lì che è vicino a te. Vedi? Si protegge il goblin. Esatto. Tocca a Eleni. Vai, amore. Dimmi pure dove vuoi andare, ti sposto io. Su 2, credo, no? Gli vai addosso? Carica. Puoi anche caricare, se Un bel vuoi. P2. Sì. Bam. Ce la fai alla grande. Uso il Piranha Strike, no? Sì. Uso qualche ingredientino prima picchio. Come vuoi. Ma Vai, che non viene segui il tuo picchiato, cuore. Io picchierei. Esatto. Picchia e basta. E Tanto fai un picchia! solo attacco col coso, quindi non è che avrebbe senso. Sì, picchia. Beh. 6 più 19 No, 22. 22 20 più 2 di carica 24, 24 colpisce una volta sola. Una volta. Quindi basta, solo E un. faccio anche per D6. voi No, ma capire. era una. Tanto era in carica, fa solo un attacco. Ah, giusto, è vero, che stupido. Vabbè, un D6. Bella, Un bel amore. 6 più. 16 più 6, 22. Potrebbero avere da mangiare Ok. danci. Anche se. Tocca quindi ad Avram. Ah, tocca già a me. Che Sì. faccio? Haste. Veloce con un tiro solo, Minchia, velocissimo, mi eh. ha un Ci po' colto sta, alla dai. sprovvista. Così tagli i mini combattimenti. Faccio Haste su tutti. E comincio ad evocare Summon Monster 6. Poi faccio un passo un metro e mezzo e mi sposto qua. Qua. Poi si è fatto famiglia. Sì. Stop, fine. Siamo Monster 6, non 7. Va bene, tocca a Shabaka. Ovviamente entro in ira, carico l'uno e sul Tu fai primo Faraon. sì, Faron, e faccio anche la propria intimidire come attacco. No, Minaccia di critico. in che senso, scusa, non ho capito. Sai che posso fare l'azione per intimidirlo col primo attacco? Ma al posto del primo attacco? No, no, no, nel primo attacco, come se fosse. Non è Dazing Assault, però. Adesso ti dico, Cioè, è. con Mesh. Sì. No, non è il Cornugo Smash, È l'Intimidating Prowess. Ah, ok. Sostanzialmente perché Ah, ma quella ti serve. fa sommare una forza in cui dire basta. No, perché c'è Rage Power. Aspetta, Ma quello adesso te lo fa fare come una lo dico. muvaccia. Intimidation Glare. Infatti, Lo fa come una scusa, muvaccia intimidire non quello. lo fai come una muvaccia. No. L'altra è quello che grido. È il Terrifying Roll che è una muvaccia e non posso fare poi. Ah, Che c'è la DC 23. quello d'area. No, Sai che c'ho il primo che con un attacco ti posso. guarda che uno dei due, sono uno è standard e uno è muvaccio, sono davvero sicuro. Sì. Vabbè, Sì, dai, non lo fai. allora non lo faccio. Che senso? Comunque, fatto 15 o critico. Devi Cerca confermare. di confermare. Uno. Non lo Uno! farò. Niente. Ricordati che se fai un'altra minaccia sono due critici. Eh sì, Aspetta. esatto. Posso di comunque tu usi punsi più. Esatto, lui punsa. Dove vuoi che ti metta? Ma te ne hai Su uno? tirato 15 più. Più. Dillo prima, però. Vabbè, ok, tu devi portare lui Aspetta. sempre pavolata, che è Sì, tutto a baladame. sì, io sempre 15 più 26. Anche coso comunque. Abbiamo pescato usa sempre del dilemma, Vabbè, la prossima però volta. devi dichiararlo. Quindi 15 più 26, 41. 41 più 2 di Colpisci carica. tutte le volte. Minchia. Lei colpisci sulla Bye carica. bye Faraon proprio. Sono Sei. 6 Più. più 6, 6, 12 12. più 7 19. 19, ma fai così tanti attacchi? 6. 5 ne fai. 2 di 4 faccio io. No, dico, ma quanti attacchi fai? 3. Ah, è vero, Tu. fai 2 di 4 d'attacco, scusa, scusa. Ma non devi considerare anche haste. Sì, una, sì. Ah, scusa. Posso? Mi fai tirare i miei danni, no? Scusa. 19, È solo 2 19, di 4, muoviti. 19, 20, 21. 21 più 31 per Più... 4. Quanto? 31 per 4. Ok, è morto, basta dire 31 per 4. Cioè, tu fai di fisso fai 31? Sì. Ma non abbiamo neanche chiesto spiegazioni a sti cristi. Ma poverino, ma poverino! Adesso è ora delle Paga si sventa piattaforme. su, si avventa sul suo simile. Che cazzo c'è stasera? Si avventa sul suo simile e lo riduce a Cioè, ha brandelli. fatto 145 danni! Per un attimo il suo falchion sembra essere un martello, ma è soltanto un'illusione momentanea. Si abbatte su di Credo che lui. adesso possiamo iniziare la fase di diplomazia. Mi No, distraggo era una. nel senso di Eh? Gorottiano, nel senso. Certo. Sì, Un martello gorottiano. Bam! per pochi. È un'impressione che dura un istante. Un Sembra un leone. leone ammantato di furia Vabbè, il mistica. mio visto totem potrebbe essere tranquillamente un leone a sto punto. Tocca ai nemici che sono un po' scossi per la brutta fine che ha fatto il poveretto. Finchiaccia! Poverino! Adesso non ho quittato. Mamma mia. Esatto, non è Tu sei neanche. invisibile, giusto? Sì. Ma no, sei invisibile di sti giochi. Può essere. I soli di Gazza no. Magari loro sì. No, ce la vuoi anch'io. Potrebbero avere Magari l'incantesimo. loro sì, Simone. L'incantesimo anche. Vabbè, Non solo la l'incantesimo anche. pass, la passive ability. Allora, 3 e 4. Attaccano. Ah, sai cosa? Gli è andato Greater Cleave a questi qua. Ah, Quindi servirà. Attaccano sia bellissimo. Khan che Damasco entrambi. Non ho un attacco di opportunità. 3-4. Vanno Ah qua? no, scusa. Sì. Perché no? Cos'è Greater Cleave? Mica mi lascia un quadretto minacciato. Beh, Greater in questo caso non serve, basta Cleave. Con azione standard puoi fare. Se colpisci con primo attacco, puoi fare un attacco anche suo. Eh Un sì, nemico adiacente. carino. Non è In questo Greater caso. La Simone tacci. No, esatto, cioè, sì, ho capito Per un qual è Cleave. nemico può servire se ci sono alleati vicini. Per noi no, Certo. certo. Per voi, cioè, abbastanza inutile. Che è quello che Giusto Cleave? per giusto qua in questo caso contro 3 4. Esatto. Facciamo prima 3. Cioè, Ah, è se vero, devo posso fare un tiro usare solo, giusto? l'incantesimo, Cioè, giusto perché si sono mossi poi. Esatto. No, puoi fare l'incantesimo, non fai l'incantesimo di fuoco. Probabilmente non ti conviene fare l'incantesimo Minaccia di critico su Khan. Azza. Faccia più grazie. Colpisce una 23, no scusa, una, quanto c'è di soldi? Per noi, quindi, sono due Non meno, sa che non tre fa niente, meno, non serve votare. c'è 11, 3, fa 8, 8, 19, 21. Colpisce una 21. Mancato. Cazzo, è un Quanto era critico. Cleave? 25 dici a Ah, è vero, Cleave. perché mo cancella l'altra, c'è la Su Master Jets. Vabbè, comunque un colpo normale. Calibrante. E gli fa 20 danni. Stichezza. Siccome ha colpito Khan, può fare un attacco su Damasco. Sì. Colpisce una 22. No, io sono una 23. scheda dove c'è il combattimento, mi ha chiamato un po' qua, queste parti. Glider. Sì, guarda subito. Aspetta, no, un no, attimo, 23. Devo evocare. 23. Sì. Lo cambio sì. Ruolo. Ah. Allora, ti manca. L'altro attacca prima te. Bastardo. Guarda, di meno. Ti colpisce. Stai facendo evocare i leoncini, giusto per farti che una ti mazione. Fa? Ah, grazie. 23 danni. Vabbè, non sono tanti. La danni. Faccia! Quindi, avendola colpita, può colpire Khan. Può solito, provare a colpire Khan. Hai detto. E 25 aveva? Sì. Allora lo colpisce. Ma prima hai contato la carica? No, non ha caricato, sono messi così. Ah, perché okay. Se non poteva fare clean. Esatto. Ah, esatto, poi se fai la carica non penso tu possa. Non mi pare tu possa dare clean. Anzi, ma senza nomi. No, perché è un'azione standard. Clean. Infatti, ma perché standard. La mettono? Vabbè. Che lo fa? Altri 20 danni su Khan. Ci sono talenti anche più deboli, eh. Sì, certo. Più che loro hanno dato, ovvero più vi sei a nuotare. Ah, perfetto. Tipo, poi mi diventa nuotare, vuoi nuotare. Adesso perché sono dei classiconi conci. Due attacca invece E. E 5 attacca. Ma io non attacco. Dopo. Mi sa che ti manca perché colpisce una... No, aspetta, devo capire quanto fa 19 meno 3. Fa 16. Ok, niente. Colpisce una 19. No. Qua devo guardare. Ah, no, 24. Ok, niente. 5. Carica baka. Fai sto camendo. 7. Mancato. No, non è vero. Mm. 7 più 26 più 27. Spostatemelo per favore. 7 più 26. Chi scusa? 5. 5 su Baka. Quanto? 7 più 27. Ok, colpito. Si becca 4. Hai già tirato. Sì, 4. 4 e 31, 35. Sì, 35 danni sul muso. Ma non posso fare in questo caso su... No, niente. Silenzio. Mi copro uno smash e non potevo fare. Non so farlo. Se fare una carica o... Proprio non se fai tipo se con uno smash mi come fa sul camenghetti quello che ti intimidisce. Ah. Non so se devi chiamarlo prima. Ah, avevi bisogno, scusa, che ti dicessi qualcosa? Ah sì, scusami, mi intimidisce un grev che tipo è, cioè che azione è. Danilo, per caso vediamo che gli attacchi sono un po' meno efficaci? No. Bene, sì, allora evochi i leoni se mi fate agire che è un po' devo... Beh, devi decidere prima cosa evocare, di quando... Ah. Ok, vabbè, in effetti non lo dichiari mai, però. Vabbè, però me l'aveva detto. Beh, di solito ce l'ho sempre in mente, questa volta mi ha detto che recovi i leoncini. Vabbè. Cioè, avevo detto evoco perché non avevo preparato niente allora per velocizzare. E ti colpisce, penso, ti ho dato 14. Vabbè. Beh, se colpisci no, una 20. Sì. La CIA, no? L'arma tua. Tieni, cerca quello che vuoi. Oh. Vabbè, aspetta, segni i danni. No, spero di no, è no. Quello che dice Milo. No, per le mie... Quanti danni? È 17. 17. Meno 3. La metà dei tuoi. 17 meno 3 è 14. La metà di quelli che tu gli hai fatto nel suo turno. Tra l'altro io anche la vedo da Magedaccio, non sono tuo amico. Non è molto efficiente questa cosa. Ti tocca? Se vuoi lo lascio un... Cosa vuoi? Tocca a Damasco. Esatto. Poverini. Boom, bitch. Esatto. Aspetta, posso? Certo. Allora, mi sposto di un metro e mezzo. Spero che riuscirà tutti in un round, così aspetta, arrivano i leoni a fare un... Vuoi che ti metta? Un metro e mezzo in... No, che cosa sto dicendo? Quanto mi posso aspettare? Quant'è il minimo a cui mi posso spostare per beccarlo? Va bene un metro e mezzo. Va bene un metro e mezzo. Aspetta qua. Va bene, sì, esatto, lì perfetto. Damasco. E colpisco 4. Mamma mia, poverino. 12 più... Dove cazzo è? Faccio sempre il deadly aim? Devi dirlo prima. Vabbè, faccio solitamente il deadly aim. 12 più fai 16. Fai il solito, sì. Ah, sì, dai. 28. 28 lo colpisci due volte. Muvaccio. Quindi non li fai tutti. Mi sa sudare, riesci a prendersi, però non so. 28, quanto come sono? Ah, ma è touch, minchia, mi dimentico sempre che tu sei touch. Sì, ma non ci conti. Puoi usarlo, sì. Lascia stare, colpisci tutte le basi. Non mi conviene. Shocking Grasp sono soli, hanno la resistenza agli elementi. Dove cazzo è? Io cosa devo fare? Anche il tuo. Mi vedi se mi qua. C'è un talento che praticamente tu hai fatto haste? Sì. Ed è ancora attivo, giusto? Sì, sì, come? Quindi io Sei Perché sennò tutti con non ti suono? tipo fai No, sono col fuoco non ti ma sì, ma conviene. faglielo comunque, fa parecchi danni. Shocking Grasp. Sì, beh, ci Sono sta. Anche 4 se riduce perché 10, faccio 5-10. no, ho fatto il deadly aim. Sì. 5-10. Poi Un po' ti fa sbucciare sì, come ok. immediate action. Vado. Non mi Ma non l'hai ricordo fatto di questo. questo. Devi Ah, scegliere forse all'inizio del turno. no, ho fatto il Parpar, ho deadly aim. fatto questo qua più Però deboli. probabilmente Ok. Beh, ho però sbagliato sono a 15. scriverlo. Sì, Perché? ma tu Guarda, potresti fare molti sono più destino con la I. attacchi. Vabbè, fa niente. Questo potrebbe essere una buona cosa da cominciare. 117. Terrifying Hole. Potrebbe Ma essere 5 qualcosa di attacchi, giusto? Eh sì, 4. quello lì secondo 4. Secondo, devo dire una cosa. Sembra fortissimo. Che qua? Minchia, eh sì. Panica. Minchia. Vabbè, Perché non sono un po' preciso. meno male che Ah! hai già reagito così mi Guarda, faccio è il morto. No, un altro morto. Sai che i tuoi lancini li hai Ma notati? come al solito Tu arriverà una qua bocca mi hai asciutta. Non ho capito messo cos'è. È una questo, standard action che è questa, ok. questo. Un default, sì. Così almeno me ne Questo scrivo. Nopia No power attack. Cioè, in effetti non dovrebbe ci essere dice, devil cioè dovrei move fare e il questa è tuo una weapon standard. fighting, qua non c'è. Ma non c'entra, il danno non Ma è che lo dipende da se fai il tuo potevo weapon fighting o no. farlo prima, no? Beh sì, Perché? sono No, 6 dovrei averlo più inserito. 3 Pulsato. più 1 se sono No, il danno non dipende se fai il tuo weapon fighting Comunque, o cioè, no. sono i due Il danno è sempre quindici proprio quello. più inutili che ho Non è preso, sempre perché più no? 15, sì. Insomma, Sì, il vabbè, Slay Game mi uno sembra mai il tuo più weapon fighting, no, sì. più che altro perché muoio un prima. Cioè, Infatti è quello che dico, cioè tu in teoria puoi fare Non più puoi attacchi, quanto ho metterci capito. Cioè tu via. stai facendo sempre questi qua, che qua sono solo Frostbite 4. fa danni non O quelli letali. sotto Shocking lì che Grasp fa sono danni 4. letali o non letali? Sì, letali, letali. Cioè, se qua sono Sì, 5, tu puoi fare infatti. sempre un attacco in Se più, non quindi, c'è praticamente. Frostbite. Beh, li cambio, Ma non è che faccio come più sempre deadly ti aim. fai Shocking Shocking Grasp? Grasp. C'è Shock. Vai tranquillo. Vai di Shock. Cioè. Solitamente uso questi due, questo Ma qua poi qua no. non c'è neanche Rapid Shot, quindi Volevo tu che puoi fare rilasciano 6 io. attacchi qua, no? Fuori anche. Tu Qua hai preso Rapid no, Shot prendi o no? Ogallo Non mi ricordo. io. Ah! Può starci. Facciamo vangate da Sì, che no, letale. rapido. No, è vero, non l'hai preso Ci può per quello. stare. Allora Adesso siamo sì. al Oppure 14. intimidisco e gli Perché dico non sono stai arrivato al fermo, tanto è 14? panicato. Ma sì, fai danni non Cosa che letali. avevo scelto quando l'ho scritto? Ma Comunque, 14esimo non c'è un se fermo. adesso cambia questi Non talenti, mi cambia. A meno uccidi. che non c'è Due punti al bonus. danno. Non credo che iniziano al danno, mi uccido. Ah, no, forse non c'è. Hai Ah, non è male. Come di power. Dai, tocca Eleni. Io volevo fare lo Shocking Grasp. Vai. Incanalato. Eh sì, nel cimitero normale, però. Ok, fai un bel andato da 20. Brava. Minchia, un bel 18 minaccia Critico. di critico. Cazzo. Confermi. Ma quella in questo caso? 9 9, più 10, 19. 19. 9 più Fortuna non ha 16. No. confermato. No, questo qua ha Così. fatto. 9 più 10, 19. Se Perché fosse più quello 10? l'attacco No. dell'incantesimo, Ah no, l'attacco dell'incantesimo fa 19 più 9. separato. Quello che delibera. Ah, si Cioè, fa completamente separato? se. Eh Sì, sì, ci eh sta. sì. Sì. Per forza. E questo cos'è, attacco dell'incantesimo? Sì. Non Quindi conferma, vero, no. con 19? No, 19 più 9. 19 più 9. Ah, perfetto. Lei Sì, 19 più 9? Cos'è questo più lei 9? somma 19. Hai detto 9 di nuovo sul dado per confermare? Ah, sì, conferma. Vai, critta con lo Shocking Grasp. Quindi sono 2 di 6. No, sono 5 5 dagli dadi da A6. 6. Sì, con l'incantesimo si fa separato, perché come fai se no a sapere, cioè, nel Infatti, senso. sì. Vuoi i miei 3 dadi? non mi servono. Anche perché è come se fosse, cioè, alla fine Che non sono è. buoni. Cioè, sì, lo conta come tipo un fighting, tipo. Sì. Vedi che sono buoni? Non so. 5 Vabbè, ci penso. 9 Però appunto per questa cluster del critico diventa 10 troppo complicato 11 e. Boh. 11 più Cioè, diventa 4 troppo fa sfalsato. 15. 4 8 10 Cioè, boh, alla 11 fine neanche tanto, perché 12 basta che dire che è, sempa 15 più dire che è sempre il 10 primo. E No, è uguale, questo com'è? qua muove, no? Si è fatto così, volendo. Questo Ah, peccato questo. Vabbè, anche cioè, se alla fine perché questo non attacco resta di con buon questo fighting. Anzi, sei qua avvantaggiato perché potresti grittare più volte. Infatti, mi e sembra giusto, allora non lo facciamo cosa separati. 15 più 20 35 danni solo può essere di 15 Shocking più Grasp. 10, E perché lei non lo 25. fa, lei non lo lancia solo Guarda che 5. 15 Sì. più 10, non 20. Amore, 25 c'è scritto 26 è più critico 10. per 2 Ah, ok, scusa. critico Più 20. mi Hai fatto i danni esce dell'arma? No, un altro di 6. altri 2 di 6 3, 2, 5. 5 quindi sono 20 più 20 40 perfetto. E minchia, ti lamenti. Poi devi fare pure tutti gli vabbè. attacchi in fisico, perché poi hai No, colpito un botto esatto. di volte. Sai, vai, fai. No, beh, dipende. Quant'è che hai fatto? No, 9 più 19. 19. No, no, quella era la conferma. 18 ha Fatto tirato. 18, Più colpito. 19, E sì. colpisce tutti, verso di me. Sì. Sì. Vai, tira. Dovrebbe tirare per la conferma. Ah, no. Tre volte, no? No, l'ho 20. tirato per la conferma. Giusto. Quindi. Esatto. 6 e 4, 10. e uno 11 più il triplo dei fissi. Non c'è 30. anche Ace, sono solo 3. Sì, no, No. giusto. Sì, 3 con Ace. Sì, Io giusto. Quindi faccio 30 più 11, sì. 61. Not bad. Su, 140. gli esplode la testa, 140 su immagino. 2. Su 2. 149 su 2. Ah, 140. Ah, sì, vero, perché c'è anche 40 di vita. Eh. Muore. Bam! Ma questi sono La sicuri di scarica. Ma sti qua, voler. quanti ne sono morti questi che ha agito Damasco? È morto 4, non l'avete cancellato. Immaginavo, Anche perché le ucciderò di Sopravvivesse qualcuno a un nuovo. turno di Giulia, non esiste. Di tutte e due, le Giulia. Allora, tocca a Can. Can. No, Fa un passo da metro e mezzo. toccava prima Candy, Eleni, in effetti, ho sbagliato. Vabbè, Vabbè. dai, poco cambia. Canne fa un passo da un metro e mezzo indietro. Ma lui può farlo Ma anche lui può farlo così, anche a distanza, appiccicato, non c'è problema. Non c'è bisogno Ah, di farlo. proprio. Fico. Vabbè. Ma sì, Sì, come, come così. Legolas. In bocca. Come Legolas. Prende le freccele con Miro meglio ficcamano. da qui. Vabbè, però fa adesso quello con il Deadly Aim. Overkill 15 15 più più. 18 più 1 di Colpisce 8. tutti. Io sono di 8. Quanti quindi? La manciata. Madonna. Fanne un po' Cosa ti su sta 3 e poi prendendo? Ma ammazza come il più 18? 18? Scusa, prima faceva. Ah no, più 20 e Di passa. 21 Giusto, adesso. No, giusto, giusto. vabbè, me ne bastano 4, Le ammazza penso. tutte e due, mi sa. Ma scusa, dimmi fissi. Minchia, quanto hai fatto? 4 14, di 8, 7, 7, 7, 6. 21. No, stai male, ti droghi. 21, Cioè, vabbè, questo questo è un tiro Simone da. si esercita tutto il giorno No, con i stai dadi, ma quando male. viene Cioè, si qua. droga Beh, proprio. ragazzi, bisogna, insomma, bisogna coltivare la C'hai dei passione. problemi? Vabbè, 12 per 4, 48, 48 più 21, 48, Sì, dai, è 21, morto sto Cristo. 69, Aspetta, perché poi aveva già 69. 59 danni su, dai, è morto. Può uccidere anche 5 a sto Ah, giusto, punto. è vero. È vero, Dai, è vero. avanti, è vero, è vero. Dobbiamo tenerne Allora, uno. quanti danni ha fatto? Ha fatto 4 attacchi, non ha fatto neanche tutti, eh. Devi decidere come ripartirli. Quanti Beh, danni ha fatto con questi 4 attacchi? adesso 60, così, 69 più 6 devo fare, quindi 70, 75, dai, con 75. quattro Cazzi attacchi. tuoi, le ha fatti, quanti le avanzano? 3? Non lo so. Tre. Sì, 3. Se Fase... vuole. Allora, segnagli key point, che ne ho dati Ah, 2. giusto. Io il primo gliel'ho segnato, il secondo no. Vai, segnali qua. Non so dove li segnali. Qua. Ah, li Io segniamo lì, va li bene. sto segnando qua. Vediamo. Dovrebbe avere uno spazio apposito. Ah. Bene, non l'abbiamo usato. Sulla scheda del Mora. Vabbè, adesso vedo. Ma Zen Archer. Non so se c'è lì chi. Sì, ci Ma sta. figurati, sicuramente ce l'ha. Vabbè, comunque adesso li cerco io. Devo fare altri attacchi quindi? Sì. Quindi lo Quanti? uccidi, non lo lasciamo per 3. No, interrogarlo. esatto, volevo interrogarlo, quindi Però non direi. sei da... Non può Cioè, far danni Khan non è all'avversario. d'accordo con te. O glielo urla Baka quando vede che dirige l'arco verso 5. Direi dopo la prima freccia che colpisce 5, perché Baka è di Ah spalle. sì, esatto, dai, facciamo primo, vediamo quanto fa Baka danno. sta... Ma fatto 8, madonna. Vabbè, ragazzi, era nella custodia di Cioè, tu Hagoroth, c'hai dei cioè. problemi proprio. 8 Quanti più 8 curare veramente? più 12, 20 danni su 5. Ancora vivo. Diciamo, io Baka gli dico, Sì. fermati uno, lasciamolo per interrogarlo. Magari poi dice qualcosa di più. Quanta saggezza in barbaro. Quanta saggezza, sì. E quindi gli altri Ok. niente, non glieli fa. Tocca a me, Bene. secondo. Chi piglia il 5? Tocca a me, vero? Sta ancora in combattimento, io non vi ho detto cosa fa. Compaiono due leoni che si avvicinano e dico fermi però. Ci godo che hai evocato i leoni per niente, come al Niente, che solito. ma tutte le volte evochi, non serve a niente, perché tu dai i buff e poi stai fermo, basta. No, infatti perché lì un po' pensavo fossero più forti, però ci stava. Vabbè, li Anche metti tu, comunque. anche Dani non lo pensavo. Metti lì a Niente, si fianco il avvicinano a 5. 5, tutti un po' Le assaggia un minacciosi. Anzi, polpaccio. uno può punzarlo e fargli un attacco, però è difficile da spiegare a un leone. No, direi di No, no. io di no. Vabbè, Non mettili può qua. muoversi e Tu fargli un può attacco solo. aggrapparlo, aggrapplarlo. Infatti. Vabbè, può muoversi e farlo. Vabbè, ve li evocati però, scusami. Ma boh, è lo stesso, tanto Ma no, ma sono... dopo... Ah no, niente, sì, ok. Si muovono, sono large, credo. L1 e L2. Vabbè, dai, lo fanno, lo grapplano, cioè, Ah, non devono giusto. fare la prova? Minchia, falla appunto, cioè non so stare a segnarli. Ah, scusa. Allora, loro sommano di dammi 20 Quello più buono. offense. No, cos'è? Ah, ecco, CMB è il 14. No, di grapple No. 18 più ulteriori 2 di augment summon in più 20. 18 più 20, l'ha grapplato. Ho detto che è sembrato buono. Ma è rotto il cazzo con quegli altri. Il dado Lo buono. vedi? 20 euro ancora. L'effigie di Hagorod. Ok, quindi questo poverino è grabbato dal leone e minacciato da un barbaro e praticamente, cioè, si sta cagando in mano. Io lo prendo No, lui schiaffi. non sembra essere spaventato. Non si... Anzi, ha lo sguardo abbastanza assente e freddo. No, non Ah. so se è freddo o assente. Freddo. Se faccio Detect Magic per qualche round riesco a percepire qualche aura. Se non è troppo problematico, però. Puzza di magia. Direi di no. Non percepisco nessuna aura magica in quest'uomo. Non è stato manipolato mentalmente dalla magia, almeno Ma non. se lo prendo a schiaffi, così lo Quindi è vedete. stronzo di suo. Prova pure, Esatto, Vaca. esatto. Schiaffeggialo, Metto, Vaca. in, diciamo, Non in metterci troppa fodo con la spada forza. e gli do due schiaffoni, così faccio attacco alle E clone. muore. Sembra stare in silenzio, mi guarda, ma non proferisce parola. E poi lo tiro forte. Sono abbastanza sicuro di questo. Beh, Si sa voce che solo siamo una gruppo. razza dura. Interrogalo. Certo, ci penso di interrogarlo. Forza, chi ti manda? Non risponde. Guarda, in Fammi silenzio. pensare se ho qualche incantesimo che può essere utile, ma. Verita Nel serum. suo sguardo non Verita vedi, nel suo serum. sguardo non vedi comunque sfida. Ah, è solo apatico. Solo apatico. Io dal mio 30 centimetri comincio. Devi parlare! Alta, un Cioè, dopo che metro. gli hai fatto esplodere la testa a suo amico, anche se sei 30 Sì. centimetri potresti intimorire. Però lui non lo intimorisce lo stesso perché è super mega apatico. Allora lo continuo a prendere a pugni finché non sviene. E poi no, c'è l'unico che c'è qui, Sviene, non ho lascialo. detto che lo uccido, Mi sembra sviene. completamente inutile. No, lo faccio svenire. Voglio dire se magari è Ah. un effetto in presenza che quando perdo conoscenza magari si. Lo Ok. faccio. Quanti round ci metto? E rinviene. Vabbè, dai, quando rinviene. Un Non. attimo. Dai, io Quante direi round è durata che sta per battaglia? coerenza. 3? 2? 2 round? Cosa, scusa? Sta battaglia? Vabbè, Sì, un round. Cioè, no, sì, è toccato a me due volte, quindi due signor, perché ho usato 3 round di là perché diciamo che uno la prende a schiaffi in Prendi a schiaffi in ira. Fai pochi danni. Io Poverino. ho ancora 29 oggi, non preoccuparmi. Non so se sta passando 29 turni con Bacca e ti prende a schiaffi. Va bene. Viene. Ok. Aspettiamo che. Ma no, lo rinviviamo noi, no? Eh Su. sì, lo Due rin. sberle, altre due sberle per Non so svegliarlo, se Vaca. funziona. Come. Facciamo create water. Psh, lo innaffiamo. Su, sveglia. Si risveglia e continua a guardarmi in modo apatico. Mi sembra completamente inutile. Riemergo dal. Aspetta. No, no, aspetta. Ah, non l'ho ucciso. Riemergo dall'invisibilità e stavolta la dispello. Quindi vedete Avram che mentre cammina ritorna visibile e dice ai Ah! suoi leoni: sbranatelo, i leoni lo fanno fuori. Ok. È lui che ti unisce alla Lo battaglia. smembrano in diversi, strappano gli arti e lui muore tra mille sofferenze. E poi i leoni spariscono. Fortuna che c'è ancora i leoni, Sì. altrimenti chissà Per cosa fortuna sono sarebbe. capitati da queste parti. Sono stati Ah, c'è veramente qualcosa di fondamentali in questa interessante battaglia. tra i loro corpi? Esatto, come al solito utile in Cioè, battaglia, eh? frugati tra i loro corpi? Sì, io Sì, sì. tutti. Sì. Ok. Moriamo. Dammi un attimo. No. I corpi vengono Aspetta, assorbiti. segno io. Oltre all'equipaggiamento, al loro equipaggiamento, che consisteva di Aspetta. Aspetta che deve segnare, vai. un Dimmi, dimmi. breastplate più uno, Come si scrive Beast? breast, come petto. Cos'è il Plate, breastplate? plate, Più una uno? cotta di maglia, Più uno? più uno, sì. Ma per 5? Cosa? Eh sì. Uno ciascuno, figo. Cos'ha? E Allora, una perché più due zanzara. longsword, ciascuno. Minchia. Una più due longsword, diciamo così, più bene. Word. Longsword, E 5 per longsword, long. longsword, sword. Più 2, figo. Queste valgono, ehi. Sta. Poi vabbè, oggetti mondani di cui non ve ne frega niente. Vabbè. Ovvero, cioè, Dado. ve li dico se volete, ma. Perizoma. Non ti preoccupare. Perizoma maculato. Perizoma maculato. Vocali di piega cose. Oltre a queste cose, appunto, oltre al loro equipaggiamento, dicevo, trovate su uno di essi un'antica pergamena che sembra essere completamente, cioè, vissuta, cioè, diciamo, logorata dal tempo, ecco. Aram, questa è tua. Fatemi vedere, mi avvicino. No, carta straccia. Aspetta, mi sono scritto antica pergamena. Che lingue conosci? Oh, io conosco un po'. Io conosco Suli. Io conosco un sacco di lingue. Riconosci che non è Suli, perché tu conosci Suli. Sì, sì, non lo so, in realtà non le ho scelte. Scegliele, allora. Io so, Common, sai cosa? Che Tengu, ho 14 gradi in linguistica e sono più 8 in intelligenza, cioè so tipo 20 lingue. Allora, quelli che so, devi contare quello che sono magari al primo livello di intelligenza. Ah. Basta. Più 4. Quindi sei 4. Quindi un solo grado. No, un grado per ogni lingua. Quindi 18 lingue so. Facciamo un percentuale che sappia questa lingua. Scusa, dimmi quali sono. Scegli. Non lo so! Che scegli adesso, io allora? L'elfico, il silvano. Scegli e scrivi. Posso vedere se tra le 10 che so io esiste? Non prendere questo. Aspetta, ne avevo scelta qualcuna. Allora, Common, 18. Tengu, Elven, Vishkania, Draconic, Goblin, Necril, Giant, Orc, Abyssal. Non è... Sì, è una di queste. Sì! Ah, grande! Dici che è l'abissale. Ah, bravissima, anche l'abissale. Ok, la leggo. È la faccia, conosce queste lingue. Ok, minchia, sono 18. Quante saranno? Saranno più di 18 le lingue. Sì, non mi importa. Una per ogni razza. Te le inventi. Però vedi piuttosto. Che non ci vengono a dirti di prendere quelle che non avevo io. Quando il linguaggio le sono dovuti. Vabbè. Esiste. Quindi lo sai tu? Immaginavo. Brava. È una di queste, qual è? L'abissale. Ah, l'abissale. Ok, però io direi che la conosce anche Avran, comunque verosimilmente. L'abissale serve per l'evocazione. Penso che la pergamena la sappia, esatto, lui. Esatto, cioè, a parte che mi pare che l'abissale, forse è draconico, che i maghi stanno di default, tipo. Non so. Comunque ne avevo scelte un po'. Ecco, Common, Abyssal, Celestial, okay, allora, okay. Draconic, Infernal, Necril e Protean. Va bene, queste okay. Le so. Ok. E le altre no. C'è anche Infernal, forse era più Infernal allora che Abyssal. Abyssal è quella dei demoni, mentre Infernal è quella dei diavoli. Sì. E tu non la sai. Ne ho scelte 7. Però vabbè, tu hai già scelto Infernal, quindi va bene. Ok. Mi spiace. Pensavo ci fosse una sola, invece parlano diverse lingue, diavoli e demoni, vabbè. Vabbè. Così è. Ci sta. Vabbè, comunque. Poverino. Dai, hai ammazzato uno, neanche si ricorda come si vabbè, chiama. Cioè, sulla lapide che cazzo gli mettono? Gli hai spappolato, non lo conosco nemmeno. Aspetta, Damasco, stai traducendo male, che ho detto a Giulia. Un insulto cosmico. Così tra l'altro. Ricordi che è infernale. In pratica sembra fare riferimento a una cripta della biblioteca, dove si tengono dei testi molto antichi riguardanti, cioè molto antichi e preziosi riguardanti l'evocazione e diciamo i patti da stringere con sa i quale diavoli. Sarà la nostra quindi, prossima vita. I patti, cioè in pratica la pergamena tra l'altro no, questa pergamena comunque sembra essere molto antica, come se fosse rimasta nella tasca di questa conica per secoli. Tutta spiegazzata, tutta... E infatti fai molta fatica comunque a leggere, ma alla fine riesci a capire. Ho capito. Quindi c'è una stanza... Cioè, in pratica, la pergamena era un promemoria di portare un libro in una di queste stanze, in questa cripta qua, fondamentalmente. E da qui hai capito che esiste questa cripta. Ho capito. Quindi c'è una cripta che contiene informazioni sui patti con i diavoli e sulle invocazioni. Cioè, e sulle loro invocazioni, cioè sull'evocare i diavoli. Ma c'è scritto qual è la cripta, cioè della cripta o qualcosa in più? No, non c'è scritto. Non c'è un era solo un memo per appunto portare lì questa qui. Pare da questa pergamena pare che esista una cripta che contiene testi particolarmente segreti e arcani sulle invocazioni. In cui di ci diavoli. Sono i diavoli, c'è una setta piena di invocazioni, c'è una cripta che contiene questi testi. Sì. Vuol dire che seguiamo. Beh, intorno a te vedi testi interessanti a parte questa pergamena. Mi sembra invece un tu hai mai visto un'informazione interessante? Potremmo... Soprattutto considerato che la teneva così stretta a sé, quindi probabilmente esiste ancora questa... Non esistono testi interessanti. Questa... Beh, però potremmo vedere guarda se che ci sono dei testi interessanti, quindi cercare veramente i giornali. Ci sono dei giornali? Tu la carta è consunta distrutta. Allora, dicevo, questa qua è una sorta di reception, quindi non ci sono molte strutture. Ci sono soltanto delle note che risalgono con delle note o delle diciamo, dei sacchi archivi. No. che comunque risalgono al massimo, ovviamente, a prima della caduta della città. Ah, cacchio, questo coso non si può spostare. Capito? Sì. Ma si può spostare, mi sono incastrata. Madonna. Ok. Ah, questa è una bella cosa, vai. Ok, quindi... sì, ci sono delle porte attorno a noi? Sì. Ci sono 5 porte che sono, diciamo, sul lato... Quelle da cui... Scusa, 4 porte. Da ognuno è entrato... Esatto. Che sono sul lato nord della stanza, tutte quante. Ok. Se posso... Andiamo lì. Di là, tipo. Andiamo nella prima che troviamo adesso. È il bagno. Non dimmi che il bagno. Andate lì? Chissà dove è Azalea. Ok. Il bagno veramente. Conducono tutte allo stesso corridoio, fondamentalmente, il quale poi prosegue ancora verso nord. Ah. Guido per il corridoio. Azalea! Dove sei? Non è una grande idea. L'ultima volta fai davvero? Sì, l'ultima volta funziona. No! Vabbè, prendiamo ci sta. L'ultima volta c'era un bema che nessuno si è opposto davanti al coso e ha funzionato. Perché non dovrebbe funzionare adesso? Certo, perché no? Siamo nel covo del nemico. Vabbè, cosa succede? Tanto c'è. Niente. Ecco, però. Vedi? Sembra dubitare del tuo amico Baka. Non forza. Ho detto nulla, Baka. Mi sbilanci in avanti. Ma c'era una cosa con quel cane, tanto di tutto. Allora proseguiamo. Baka, sei davanti, tu sei la voce del gruppo. Avanziamo con spada sguainata. Con Avram in mezzo protetto. È buio, cioè ci vedi tutti? Light sulle armi. Ok. Low light video. Sulle loro armi. Accendi una torcia, se no. Accendi le braccia. Ah, accendi il fuoco sulle braccia. Ma figo. Più light sulle armi. Vieta quella che sembra essere una porta dopo pochi metri, una vicina, non era un corridoio. In effetti vedevate già forse. No, però era buio. Okay. Vi trovate innanzi a quella che sembra essere una porta massiccia, larga 3 metri, quindi un portone. Sì. Un portone. E alta 5. Intarsi o scritte posso in... Posso mettere le mani sul... Ah, brava, bravissimo. Grande. Ok. Vedi che al di là si... Si dirà quanto riesce a vedere questa probabilità? Cioè, come se vedessi su lassù il ciglio della porta. Non c'è scritto, mi pare, abbiamo già visto. Ah, sì. Come se vedesse normalmente. Ok, al di là è buio, quindi vedi entro i 60 feet dalla tua scuro visione. Certo. Niente, niente. Ok. Quindi vedi tu. Vedi che sì, no. Appunto no, perché c'è una stanza veramente enorme. Ah, enorme? Sì, gigantesca, che è ovviamente quella dove si conservano tutti i libri. Cioè, la biblioteca vera e propria. Ok. No? Infatti, vedi che ci sono scaffali su scaffali su scaffali su scaffali. E si ma sembrano intatti o sembrano messi male? Questo da così lontano non sai dirlo. I primi che vedo, tipo. I primi fin qua. Ma sembrano normali, cioè dei libri che sono rimasti abbandonati. Cioè, c'è tanta no, pure. Dicevo, sembrano, cioè, è tutto un casino come la reception. Ah, dentro, robe... no, dentro è tutto... Ordinato. È rovinato, tutto distrutto. Rovinato. Ci sono vari scaffali, cioè... cadenti, queste cose qua. Quindi c'è stato anche qua fatti scendere. Ok. Cosa vedi, Damasco? Quindi ci prendi. Sì. Fino a dove posso vedere, vi dico... Sottolineo che è tutto... Entriamo. Beh, Baka, tagli onori. Tuttavia. Cioè, non c'erano altri accessi. Cioè, praticamente fino a qui... La strada è unidirezionalmente riferita. Sì, esatto. Sostanzialmente c'era un corridoio che portava alla reception, poi dalla reception si andava alla biblioteca. Alla biblioteca. Non c'era altro. Non abbiamo altra scelta. Prego. Posso aprire la porta? Sì. È aperta? O è... È aperta. Fai un po' fatica a spingerla perché... No, non è vero che non veniva aperta molto, però comunque la porta è imponente. Molto non fa fatica perché sembra... No! Beh, riconosci che è una porta un po' più pesante degli altri. Ti scorgi a malapena. Esatto. Figo. Ma siamo piano nella stanza. Incendiamo qualcosa. Fate una prova di perception tutti voi. Una prova di perception. No, scusa. Il soffitto è molto alto. No. Colpa della tua scheda. Ah, io niente. Io non vedo niente. Ho fatto un 6, quindi ragazzi, sono cazzi vostri. 24. Ecco. 29 coso can. Ah, bravo. È stato un 20. 12. Vedete il suo vedi che in qualche modo bilancia, eh? Va bene. Rilancio! 28. Che qua, qua, 26 bacca. 29 can. 29 can. Tu hai 24 hai fatto. Ok. Tu e can, vedete in... guardando il soffitto, nonostante l'oscurità che li cela, vi accorgete che vi sono tantissime, ma tantissime piante che stanno dormendo. E perché dico che stanno dormendo delle piante? Perché non hanno l'aspetto molto piantoso, diciamo così. Sono di siffatte, delle piante siffatte. Con tanto di bocca e dentini. Esatto, no? Che però sembrano essere sopite. Quindi non si stavano nascondendo, per questo ma l'avete vista nonostante l'oscurità. Sì, cioè, attaccate come al se... soffitto. Ah, ma attaccate al soffitto. Ma il soffitto è altissimo. Sì, sono super. E quanto sono grandi? Piante enormi. Ognuna di esse è enorme. Ce ne sono un centinaio, infatti, totale. Ma sono gargantuan. Minchia. Sono tutte gigantesche. Guarda, sembrano dormire. I miei alleati intimorito. Ma noi non le vediamo, però. E noi non le abbiamo ancora viste. Vabbè. Ah, ce le dite? Sì. Io fermo tutti e faccio segno col dito. Oh, cazzo. E anche di far silenzio, magari. Esatto, cioè, magari. Cosa c'è? Bacca. Trattieni la tua favella. Sono degli alberi. No. Crescono in una posizione alquanto inusuale. Adesso li avete visti anche voi dopo che vi hanno invitati. Fate una prova di conoscenze. Ah, giusto. Natura. Nature. Io non ho niente conoscenze. Dai, io non dovrei essere male su natura. Ma poi dov'è conoscenze natura? Fatto 1! Bravo! Totale 20. Di 14. No, non gli so niente. Dai, che palle. Posso fare una prova io anche se non ho gradi? No. Ci vuole almeno un grado per fare la prova. Ragazzi, io ho fatto. Però può fare la prova sodoma con i miei gradi 13 precisi. Insomma, 20 e fa 20 di dado! Ok. Ma che cazzo sono queste piante? Dico. Sodoma ti distende. Non lo sai! Magari in più piano. Aspettate! Mi godo il momento! Avram non lo sa! Però piano, sempre piano. Sì, sì, magari certo. Abbiamo chiuso la porta dietro. Ah, dannazione, dimmi che cosa sai! Dannato di un pennuto! Siamo nella tua stanza. Ci cioè, abbiamo chiuso la porta e siamo riusciti. Mi prende in giro questo illitterato di un pennuto, che cosa saprà mai sulle piante? E invece ha fatto 20, ha fatto 34, quindi sa di... Ok, sa che sono note come ladri di corpi, con queste piante. Sono delle piante gigantesche che... Quando ti afferrano e ti mangiano, cioè, e ti mangiano, ma tu hai visto la... Certo, la bocca. Ti rigenerano dopo un paio di giorni come loro servo, fondamentalmente. Ah! Capito? I loro servi escono da queste uova che erano raffigurate qua sotto. No? Aspetta un attimo. E immaginiamo che siano quei tizi che abbiamo incontrato. Qua sotto, no? Così. Sono questi simili che nascono. Ah, bellissimo! No. Ma sono diversi oppure sono proprio uguali? No, sono esattamente uguali e conservano le memorie di quello che era stato assorbito. Come il nostro Pharaon. Esatto, se riuscite che sono che erano lì, okay, sono cadute evidentemente vittime molto tempo fa di queste piante. E si sono preservati. E si sono preservati, però esatto. Quei sulli lì sono morti o sono... Sono morti, cioè, dentro... sono morti e sono rinati dalle uova di queste piante. Avevano verosimilmente il compito di condurci qui e portarci dai loro padroni. Sì, vabbè. Bravo genio! Grazie, Don. Accarezzo, cioè, cerco di accarezzare... Allora già arriva. Ah, il tenuto? Sodoma. Si abbassa per farsi dare le carezzine sulle. Okay. Sodoma sa che ognuna di loro è abbastanza potente. Ah. Non vi darebbe troppo filo da torcere, però sono singolarmente, ma essendo questa in 100 è meglio cercare di non adirarle. Meglio stare schisci! Teniamo! 100? Sì. Contati o... Un centinaio. Ok, come cazzo facciamo andare dall'altra parte? In silenzio. Le picchiamo. Ma no. Per terra immagino che ci sono... Per terra non ci sono piante, sono tutte sul soffitto. Però c'è un gran casino, immagino, perché hai detto che era tutto di sì, ok, ma avevo urlato, cioè, dormo profondamente, mettiamola così. Okay. Cioè, lui prima ha urlato e non sembrano essersi svegliate. Quindi, cioè, non è che dovete fare particolare, basta che fate con calma. Fate comunque una prova di stealth. Facciamo una prova di stealth, io, insomma, abbastanza. Io non sono... È un acrobatics? No, io non ho niente in stealth. 25! Ho tirato 20 sul dado. 7! Io ho fatto... Tanto conta la parte più basso. Beh, io ho fatto un 7, quindi... Ma quanto hai tirato? 4? Io posso fare acrobatics? No, devi fare stealth. Non ho niente in stealth. E fa niente, sono mia destrezza. 19 più... Ho 2 gradi. Come hai 2 gradi? 2 gradi. Perché hai messo 2 gradi? Perché quando 12. Sono invisibile magari mi serve per non farmi beccare. Chi ha 2 gradi lo devi anche non mettere. Allora, perché pensavo di metterne di più. Poi. Can fa 21, io faccio 7 più un 8. 2 8 abbiamo qua. Io 25, meno male. Va bene, l'importante è che su di voi abbia tirato un 1 fondamentalmente. Meno male. O che abbia fatto uno 0 sul dado, perché vi rendete conto che dormono veramente molto profondamente. Avram e chi è che tu l'altro 8? Sì. A un certo punto sbattono contro uno scaffale assieme e lo fanno cadere facendo boom, boom, boom. Così no. Ma nonostante il gelo cala tra di voi, ma nonostante questo le piante sembrano continuare a dormire. Sguardi tesi. Scusate. Non l'ho fatto apposta. Si è messo davanti lui. Bravo nonno! E lei sveglia perché ha pagato il corpo. Non lo fa, non fa domino, fa salto contro lui, così fa boom contro quello dietro. Certo. Ok, riusciamo ad arrivare dall'altra parte? In realtà è Baka che l'ha buttato giù perché... Cioè, sì, certo, io sono leggerino. Però magari stanno giocando di lui, tipo, gli ha dato una spinta e era già abbastanza in vita. Posso vedere se c'è qualcosa diciamo intorno? Che io ho interessato tipo esatto. Posso vedere se c'è qualcosa intorno? No. Di interessante? Volete ci cercare con centinaia di piante sopra? No. Non sono prendo un libro a caso. Dei giornali, se ci sono prendo un libro a caso. Sì. È un trattato sull'economia di una città di nome... Frafula. Ah, Frafula. Sì. E com'era questa economia? Andava bene? No. Male. Infatti si lamentava del fatto che il principe della città era uno spendaccione che esatto. Non badava il bisogno del popolo. Okay. Mentre leggo, inciampo in una sedia e faccio il casino. Ulteriore casino. Il giornale c'è qualcosa? Ma, non è che c'erano proprio dei giorni. Cioè, ma sì, ma è qualcosa che... No, ma sembra il caso, no. Allora andiamo dall'altra parte. Cosa dobbiamo fare? No, esplorate magari per cercare eventuali porti, immagino. Sì, sì, sì, sì. Allora, con la porta togliamo e togliamo. Immaginiamo che dall'altra parte del corridoio, ma non è effettivamente non ho detto. Non è un corridoio, ci sono varie che si diamo, comunque è molto ampio. Andando dritto. Andando dritto giungete a una, parete. Penso. Una parete. Ma non ci sono porte. Cioè. Allora cerchiamo, facciamo comunque un paio di giri. Allora, prima porta che entriamo, direi. Cioè, lei guarda quei guanti. Ok, non sembrano esservi porte. Te, però Can, che è un nano, e quindi si accorge dei passaggi segreti. La roccia, sì. No. Si accorge che ve ne è uno. Cioè, fai una prova, ma vabbè, se ne accorge, dai. Accorge, 15. Non è benissimo. Ecco, tra l'altro non era benissimo ben nascosto, bastava cercarlo. Mm-hmm. Bastava sapere doverlo cercare. No. Melon! No. No. Non bisogna dire Melon, no? con quel 15, diciamo, no? Trova anche il modo per azionare il marchingegno che... Bravissimo, Can. Sono però oggi. Preme la classica mattonella, scusa, certo, e si scosta molto alla benvenuti a diagonale. Potremmo aver trovato quella camera segreta. Camera dei segreti. Io non esperto. Scusate, oltre la dicevo cosa fanno oltre la la parete che si è spostata, mm-hmm. Ci sono delle classichissime scale a chiocciola che scendono giù nell'oscurità. Baka, vai avanti tu. Ma lui c'entra. Classicissime. Vabbè. Allora, nella saggezza di Khan ti dice Castellite con l'italiano. Freccia. Ah. Ok. Allora gli Castellite su una freccia proprio così. E spara giù la freccia per vedere quanto è fonda la scala a chiocciola. Ma così avverti tu. Ascolta, la scala a chiocciola non è che vedi giù. Infatti un non pozzo, vedi giù, cioè non è un pozzo. Vedi solo, senti solo più o meno il suono. Scusami, no, vedi la luce e se c'è qualcosa sulle scale. Ma poi anche se fonda, chi se ne frega, scendiamo e basta. Sì. Scusate, lo fanno qua figo, basta. Andiamo giù, Baka sta davanti, non cazzate una bestia, e cammina intanto picchietta sul muro con la spada, cioè così, din din din din. No, ma scusa, ho capito, cioè, più che altro come fai a vedere, cioè, quello è il punto che dicevo. Pensa che sta la scala chiocciola, cioè, no, vedi. No, è cioè, un piastro di cioè, ah, no, ok, non è, pensavo pietra. Sì. Pensavo fosse quella tipo attaccata al muro, cioè non che fosse diciamo attaccata. Ah, tu pensavi proprio capito? Una semplice scalina lì. Cioè, una scala così. No, no, niente, sì. Vedi castelli. Ah, ho capito, lui no, dice no. Un pozzo con una scala che sta su i bordi. Pensavo così. No. Ah, no, ci sta, allora. Sì. Beh, questo è okay. Basta, vado avanti io tranquillamente. Vai avanti tu, Baka. Insieme a Can. Va bene. Chi mi segue? Secondo Can, io terzo, Damasco dietro e Leni in fondo. D'accordo? Sì, avanziamo. Con Light, sempre con le braccia belle. Stavolta sono visibile. Ok. La scala chiocciola scende per quelli che pensate essere diversi metri. Una ventina. Io ho fame. Non hai portato le razioni. Perché non hai mangiato prima di uscire stamattina? Ti avevo detto di fare una buona colazione. Perché non hai fatto la pipì? Eh? Esatto. Perché Genoveffo termina in una stanza abbastanza ampia, non ovviamente come quella precedente, certo, ma comunque fai il doppio di questo, ovvero non so quanto è questa. Vabbè. Il doppio di questo non so. No, sei metri quadrati, cioè così si fa un'idea. 6 metri quadrati. Esatto. Ok. 6-7 metri quadrati, una roba così. No, di più. 10 metri quadrati. No, allora scusa, più di questa qua in effetti. Fai comunque che... Si sì, fa niente, grossa. Quanto fa la bagnetta? Sono curioso, se fosse grande quanto la bagnetta sarebbe un po' sgamo. Chi se ne frega di quanto è grossa? È bella grossa. 9. Un attimo, ci arrivo. 12. Sono... Boh, tipo... 180 metri, cioè 300 metri quadrati. 18 metri. Ah, sì, scusa, io volevo dire quadrato di 10 metri. Ah, sì, no, infatti. Sì, scusa. Comunque è un quadrato di, fai 18 per 18 metri. Ah, ok. Ok. Sì, ho detto quadrato. Cosa c'è dentro di bello? Non fa niente. Cosa c'è dentro di bello? Vuota? Allora, è vuota. Strano. Anzi, è buia. Oh. È illuminata dalle vostre spade. Quel poco che viene rivelato, però vedete delle torce ai lati. Ah, e sono accese? No, ah, bene. Se no non sarebbe... Allora, lui. Accendiamo con il solito sparkle. Ma che cazzo? La vuoi accendere? Ah, giusto! La riceve, no? Mi pone la freccia sul braccio, gli si accende la cosa. Fa un colpo... Guidato, usando il key point. Usando il key point. Il key point. Quanti ne ha? Non ne ha così tanti da usarlo per una cosa così stupida. E poi non ha bisogno di farlo guidato. Ah, lo dici che accende tutti con una allora lo fa. Dai! E poi usa il talento devia le frecce, la devia e la, anzi la blocca così. La spegne se la rimette. Non ce l'ha, devia le frecce. No, vabbè. Semplicemente vabbè. Tira fuori una freccia, te la pone sull'avambraccio che si accende, la infiamma, la lancia e la dirige per accendere tutte le torce della spegne. Vabbè, mi piace che abbiate fatto questo perché accendono tutte le torce e vedete che ci sono... tre piante di quelle di prima nella stanza. Oops. Che sono sveglie e vi stanno guardando non in modo amichevole. Ah, fanno tipo sembrano esserti appena svegliate. Sì, esatto, dal rumore. Quindi sono anche incazzati. Ah, dal casino che abbiamo fatto noi arrivando? No, beh, sì, per caso forse. Ah. Viviamo in pace. Parlano. Io ci ho provato. Parlano le piante? Sì, l'erbolario. Purtroppo non è la mia lingua. Mi dispiace. Non sei noto per il tuo pollice verde. Common. Can speak? Che fighi. No, can speak, lo capisco. Ah, lo capiscono. Veniamo in pace. Sì. Fanno così. Ah. Non sono un esperto di segni, ma credo che non gli interessi. Pare di no. Pare proprio di no. Quindi io dico, veniamole tutte! Oggi si pota. Sembrano intenzionate in questo senso, quindi non vedo perché no. E si passano già una liana sotto il mento. Fa vedere che non gliene fotte niente. No. Ma sono quindi da dire a fuoco a io. Gargantuan. Esatto. Minchia, sono belle grosse. Ma quanto sono distanze dal luogo? Immuni? Voi siete all'inizio della stanza o sono alla fine? È vero? Sodoma sa se l'immunità, cose così, ha fatto 34. Sono immuni a un bel po' di cose. Libri non al fuoco. Non sono immuni al fuoco. Quindi posso fare il mio di sé di fuoco? Ma lo fai una volta sola, perché, cioè, tipo è once a day, eh? Quindi? No, a parte che non è... No, quello è quello che posso fare, che posso sparare il raggio di fuoco. Boh, comunque che è due volte al giorno. No, pare proprio once a day, però... E l'altro è tipo, non posso, se non sbaglio, come con le claw. Qualcuno guardi sto su di merda. Chi se ne frega di sto dado da 6 di fuoco? Non ce l'hai il cellulare con... Ma no, non hai l'app. Cioè, come si chiama? Masterwork. Sai che resiste al freddo. Resiste al freddo, ma il fuoco lo prende. Tu fai roba di fuoco, shocking grasp. No, faccio anche raggio rovente. Raggio rovente. Flaming burst. Mi sbaglio sempre. Vai, flaming burst. Io vado avanti, ben detto. Ecco il flaming burst. Che poi non mi sono accorta che... Usa l'entrata è qui. Eh? Yajitsu, come si chiama il mio kensai? Sì, ok. Lo so. Praticamente la cosa che posso applicare il modificatore di intelligenza al critico, non mi ricordo mai. Ah, ah, il critico perfetto. Per confermare, è mai che mi ricordo. Ah, figo. Mai che mi ricordo. Ah. Vabbè. Poi quando critti, puoi usare un tuo arcane point per aumentare di uno il moltiplicatore del critico, quindi anziché fare più 2 fai per 3. Ricordati, perché è una delle cose più forti del Kensai in assoluto. Cioè, proprio forte quella cosa lì, eh. Forte, sì. Forte. Cioè, anziché far per 2 fa per 3 con un... Cos'è che ha un falchion lei? No, la scimitarra. Ah, la scimitarra, sì. Non è male. E fa tipo 15-20... No, 17-20 per 3. Cacchio, ho fatto 20! Sprecato. 12 punti buono. Vediamo cosa io ci ho risposto così. Perfetto. Qui c'è la porta da cui siete entrati, mm-hmm. E qui c'è un'altra porta. Mm, loro come hanno fatto entrarci? La magia. Sono cresciuti lì, magari. Sono cresciuti lì. Può essere benissimo. Come hanno fatto? Fai magari la porta un po' più grande, perché lei, dai. Ma vabbè, sì, siamo capiti. Sì. Ah, si sono teletrasportati. Che belle bestie. Belle bestie. Iniziativa. Vediamo se Avram per la prima volta nella campagna fa più di 10. 17! Tu prega chi sei dopo di te? Anche io 17. Hai fatto 19, sei uno davanti a me per uno. Vabbè. Vale. Puoi posticipare se vuoi. Sì, esatto. Magari giusto per vedere le cose. Sì, direi che come prima cosa posso farvi. Il corvo, se sono immune a mind affecting? Sono immune a mind affecting? Suppongo di sì, però. Sono delle piante. Sono delle cazzo di piante. Che ne sai? Sono intelligenti, capiscono il comune. Sì. Carini, non lo so, non c'è qualcosa di un po' più carino che posso fare, interessante, paveste, poi basta. Scusa, fai un muro. Infatti quello che sto pensando è fare un bel murazzo, che però non so se è così gran tanto grande. Che? Beh, sì. Mi sei fatto? Hai allora, tirato uno? No, io ho tirato un buon numero. Ah, allora hanno detto un meno uno. Allora, 1, 2, 3. Quanto hai fatto? 19, 28. Ma un po' scalzo. Anzi, palzo! Io mi sa che posso. Dai, ditemi le vostre iniziative. Vai, inizia tu. 19. Io 24. 23. 17. Un attimo, 23. Ma io posso ci fare forza alla fine del turno. Can? Mm? Can, scusami, a 20. Per forza fine tu non lo posso anticipare? Non posso anticipare dopo di te? No, ma posso anticipare dopo di me tranquillamente. Posso anticipare dopo di lei. Però aspetta, perché io non so se fare East... Stato fa il tuo coso, no? No, ma minchia, quanti ne prepara al giorno 1? Di East famiglia. Primo baka. Sì. Sono il primo io, eh. Fallo tu, bravo. Allora io posso anticipare dopo di... Elie. Di Eleni. Baka posso anticipare dopo di Eleni. Ok. Quindi non lo devo fare. Ha letto. No, sei sicuro? E la faccio mai io in un attacco. Ma sì, non attaccare, perché così è molto più forte fare East. Infatti in un attacco, cioè faccio East e sto ferma. Cioè, piuttosto che fare un attacco solo. E infatti faccio East e sto ferma, capito? Non lo so, forse perché non mi conviene avvicinarmi, perché... Ah, stai ferma? Perché le botte faccio... deve prendere le bacca. Infatti. No, anche perché faccio pochissimi danni senza incantesimi. Allora faccio così. È lui che deve rinascere come Bob Spawn Creature. Esatto, che figo. Ma poi tiro gli dadi, lui te lo tiro con Baka. I dadi per col tipo e colpire, lo faccio io. No, allora, è divertente. Tocco Baka e gli faccio Freedom of Movement. Ti ha stupito? Sì. Volevi grapplare il mondo, eh? Ti ringrazio. Ora mi sento molto più alto. Adesso sei libero! Hai preparato stronzo. Eh sì, Freedom Movement è sgravissimo. Forse ne ho preparate anche due. È bene. Due, tre ne ho preparate. Può essere? Tre ne ho preparate. Di quarto, cioè non c'è Enervation. È un Enervation, ma siccome tutti non morti così. Giusto, bravo. Fatto bene. Tre Freedom Movement. Che previdente. Fine. Che poco meglio. Cazzo. Ma volevo essere un fatto. No, ho fatto questo, che secondo me c'è meglio. Dici così meno mega, sì, potrebbe. Sì, sicuro, prova a glapparti, spreca anche una donazione. Beh, magari la riconosco. A parte che c'è un grabbo. Giusto. Comunque, tocca a Khan, scusate. Vai, Khan. Khan tenta di colpire P2 con il La P2. La P2. Eradichiamo le sette segrete. Colpisce la P2 col Deadly Aim e quant'altro. Vediamo. Che culo. Cioè, non so se hai visto che cosa ha fatto. È iniziato così. Simone, taci. Quanto è totale? 18 più 8. Totale 18 26. 26. Colpisce una volta. Dov'è di 8? No, colpisce una sola volta. Damasco, no. Ah, non ce faccio uno. Ragazzi, usciamo tutti. Dove l'ho messo di io? Di io. Cosa? Ah, scusa, mi diverto. Ciao, no, mamma, guarda come mi diverto proprio. Però puoi usarlo. Ah, questo qui è quello che sì, vai. Azzurro, mio. Vedi? 8. 8. Ma tu quelli dai da 8, cioè. Devi al colpo con una delle sue indiane. Ah. No, 8, scusami, 8 più 12. 20. Devi al colpo con una delle sue indiane. Primo attacco non fa danni. Devi a un proiettile. Poi non ti attacchi, quindi... No, ah, è vero, ha fatto un solo attacco. Ha fatto... Okay, pensa che ha colpito questo, era 20, così... Sì, sì, sì, vabbè. Tanto lo deviava lo stesso, perché devi a un attacco round, credo. Chissà. E beh, ma se ce l'ha 20... Un range attack round. Dai. Allora, tocca a... Damasco? No. No. Damasco? No, tocca a... Baka e... No, tocca a Eleni, perché Baka adesso dopo. Hai un bel ace. Tipo, l'idea sarebbe uscire tutti le scene. Devo dirti cosa faccio dopo. Beh, se vuoi puoi muoverti, però... Non c'è so. No. E non mi conviene. Ace, lei riesce facilmente lo stesso a overclockarlo, perché non ha spellcraft come il tuo, mi sa. No, però devi guardare spellcraft. Però può fare anche base con 5 round. Okay. E comunque Ace ce l'ha cosa di primo. Di te, scusami, Tez però c'ha 14 gradi. Più 18. Ho 18 gradi a spellcraft. La DC è 15 più livello, quindi 5. No, è da 15 no. Più 3, 3, 18 più la quando è che si casta al 6. Ace di terzo. Lei lo casta. Okay, cioè... Ah, è vero, lei è un magus. Quindi, e adesso vedo. Vabbè, fatti un non è che casta di te. Inizia di adesso diventi. Però ora... sei preoccupante il tiro. Esatto, vediamo. 17 vabbè, 18. Niente, boh. Però usi la swift action. Vabbè, sì. Visto che sta fermo. E infatti sto fermo apposta. Quindi non ti muovi, non vai neanche a prendere attacchini, niente. Niente. Tutto io. Al massimo volevo spostarmi tocca tipo il qua, botte. Capito? Cioè volevo spostarmi tipo di un quadretto e basta. Proprio. Beh, grazie. Wow. In effetti se fai un passo di un metro e mezzo è molto utile. Maca urla, branco di codardi che mi sto ritrovando. Ma proprio non ma perché non vuoi prendere neanche un colpo? Vedi la Maca sta piangendo, no? Io ho ancora meno due. Ma non ce l'hai meno due? Sì, hai tiri, è vero. Vabbè, ho capito, però siamo meno due, però vabbè. No, lei dice perché è resuscitata non l'abbiamo mai curata. Ah, è quello che intendo. Ci vuole restoration per farlo, non l'essere normale. Sì, è quello che non vado proprio da life. Così. Vabbè, dai. Ho capito, ma mica sei inutile con un meno 2. Ah, ok, allora vado. Sei forte, 26 più 2, 28. Colpisci una volta. Inizia. Questo è male. 2 con ace. Dai, Eleni, vai lì, cioè, sennò poverino. Ma adesso mi avvicino. Primi danni. 34. Non potere. Sì che puoi, con un semplice meno 2. Sei comunque forte. 34. E poi... 36. Aggira sul dado, scusa. 10. 34 e 36, cioè... Sono due, no? Sì. Uno ha fatto 5, l'altro... Dimmi totale, non dimmi separato. 34 e 36 sono 70. 70 danni. Io ho paura. Ovviamente sono in ira, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Tocca Damasco? No, tocca le piante. Te pareva. Ah. Perché hai aiutato un tiro alto, ma lo so, ma meno uno. Questa è... 19. Sì, ho visto in parte 19, infatti ho detto... Le piante erano okay. Quasi tutte. La P2 attacca Baka. La P2 attacca Baka? E Baka risponde con critico, minaccia di critico. Con una minaccia di critico. Gioco che? Merda. Conferma con un bel 18. Cosa faccio se confermo? Niente, ti mangi il dado. Dai, tira 4 dadi da 8, da 4. Sì. Presti, più un milione. Di questi di 4. No, sono solo 60. No, cazzo. Cos'è che hai detto? Sono solo? 60. Guarda qua. Non sono solo 60. 10, 13 più 60. 62. 73 danni ha fatto. Più, cioè, meno damage reduction eventuale. Ora posso? È morta? No. Che pensa che in teoria adesso io faccio un altro attacco e dovrei rifare ancora. Cioè, ma se ne muori! Cioè, il come get me vero, ma c'è. Ma cosa? Vabbè, in effetti è un pochino forte. In effetti non è strasgrava anche così, comunque. Infatti. Cioè, secondo me non ho fatto troppo. Voglio cambiare. Forse non è così forte, magari non lo prendo. Esatto. Adesso che ho fatto un PG che è tutto spesso. 20! Minaccia di critica. Quindi fa tutti gli attacchi, anzi. Confermalo. Lo confermo con l'altro 20, così sono due critici adesso. Così muoio. No, però lo confermo prossimamente. Beh, una 20 di colpire. Sì, sì, sì. Oh, ti prendi tutti gli attacchi. Quanti sono? 12? No. Non ti grappla. Perché? Che gli mister ti ha fatto freedom Ma lui non lo sa. Ma... Tanto c'ha grab. Grab certo non fa... spreca azioni, lo fa come una free action quando attacca. Che palle. Ma quanti attacchi ci può aiutare? Non direi. Ma vai lì e fai un bel po' di attacchi con sì, scaratuoni. Ne fa basta. Vabbè, attacco e poi nell'altra faccio. Ma la pietà c'è forte, scusami. Non è quello che... ma non ha senso. Cioè, stavo pensando perché loro sono... Devo tirare... Non è quello che fa 4 di 4 che le si carica. No, 4 di 4 è 4 di 6 poi, no? Non esistono per me 4 di 4, No. Ma non lo conosco. Cos'è? Si recupera un po' di vita, ma... No, non è forte, sei full touch comunque. Infatti. Sei full, tanto che... No, ma cosa sta prendendo? Cosa cerchi? Ci sono di 8. Passami quei due lì. Quelli che lo fermano. Ah, tu dici. Sono un bel po', Black Tentacle. Sì, scusa. Ma non ti conviene. Ma no, sono grossi. Sono Gargantua, non li grappli. Non so, Simone, però, dai. Minchia. 10. 20. 27. 27 più. Ci sono altri. 36. Quanto era questi? 27. 27 più 36 sodo. Ma e sono 56. No, sono 60. Aspetta, 56 63. 63 meno 3 di damage reduction 60 tondi. Mi sono fatto fare in più per la damage reduction, giusto per essere ok. Sti cazzi. Allora, minchia, ti ha dimezzato la vita. Ma non siete curati prima, da prima, tra l'altro. Esatto. Ah, veramente? Ho 99 PF. Però lui non aveva preso danni, mi pare. Così. Io sì, 14. Ah, vabbè. No. Però loro hanno preso tanti. Quanto allora, hanno presi? P3. Quando si spostano queste cose? Dimmi che si spostano. Non si spostano, probabilmente. No, si spostano di 5 feet. Veramente? Che fighi. Ti risposto? Allora... Perfetto. Allora fanno entrambi un passo da un metro e mezzo avanti. Oh, ma io attacco? Oh, stai calma, dopo tocca a te. Le fa girare adesso perché sennò penso che anche muoiono probabilmente. Lo so che quel chiatacci uno t'ha ringalluzzito. Infatti sta che non devi neanche tirare, cioè devi tirare solo se fai uno. Sai cosa volevamo fare? Tipo uscivamo e lasciamo dentro solo Damasco che sparava, no? Per un po' e poi usciva da sola. Beh, cosa stavate aspettando? Tipo Iron Man, esatto. E vedi Iron Man che esplode dietro la pianta. Senti pim pum pam da dietro la porta. Vedi le piante che fa Peter uscire. Esatto. Delle liane che si fanno sta aiuto. Ok. E tocca a proprio. No, tocca un corno. Devo fare. Dalle loro bocche esce un raggio di acido. Così. Quanto è lungo? 80 feet, l'ho detto. Sì. Quindi mi becca. Line. Sì. Becca anche. No, line. Quindi fa così, tipo. E becca chi K è da. E A. Oh zio, che sfiga veramente. Anche te, perché è la cosa più utile alla fine. Sì. Vabbè. Fai il muro, non l'hai fatto. Va a sapere. Ma il soldo ma non sapeva che faceva una roba del genere. Devo dirti tutti gli attacchi che fanno, non so io. È fatto 34. Perché è un cazzo. Cioè, non ti dico tutto a fine. Beh, se lo sapessi. Io ho aggiunto un sacco di cose, mi pare, cioè. Sì. Cos'è? Reflex di mezza? No. È veleno, spello, supernatural ability. Lui ha scritto SLA qui, non vorrei, ho paura a chiedere cos'è. No, non era la loro abilità principale, diciamo. Cioè, già hai fatto freedom of movement grazie alle mie informazioni, direi. Beh, no, perché? Perché sai che grapplano. Sono creature gargantuan. Vabbè, che non... dai, perché cioè... cos'è che mi hai detto che grapplano? Che una volta che ti mangiano... Ah, ah, in realtà non ci ho pensato. Cioè, pensavo che fosse tipo ti mangiavano. Boh, non lo sapevo. Comunque, sono creature gargantuan per quello. Vabbè, comunque ci sta. Scusami, cos'è contro poison? Spell o. È una su, quindi no. Per cui c'è scritto SLA, però. No, no. Cos'è SLA? Spell like ability. Infatti, Sla, cioè, bruttissimo, no, poteva scriverlo. Tristezza in mano. Reflex, save, quanto fa? Hai tirato, mi spiace, hai tirato 4, canse, ma... 17. Niente, non riesce. 29. 29 riesci. Ecco. Vediamo. Ma tipo, lui è già su 40 danni, non so se... Io sommo... non pochissimo, però... Riflessi, 8, giusto? Sommo 8, cioè... 16-19! Sì! Mi spiace, ma con 8... 19-8... Cioè, 20, non bastano... 27 riflessi? 24? Non basta. No, 27 sì. Ah, aspetta, poi c'è 19, East. Scusa. Poi c'è East, ah, prendo un ulteriore più 1. Comunque, quel 27 lì. 28 e 25. No, uno lo becchi. Riflessi? Tu Inchia. Non devi farlo. No, no, scusa, hai detto che è lei ha fatto 31 sei nel raggio. Perché becco solo ma aspetta, ma poteva fare che colpivano entrambe le volte? fammi vedere bene, perché qua... infatti, dipende da molto. Cioè, vedi, no, in teoria. Ah, bene. Cioè, bene, bene. Non so neanche se potevano fare una volta solo. Cioè, aspetta, magari troviamo una linea, Cazzo. Sì, cioè... Cazzo. Direi di sì. Beh, anche di qua. Sì, vedi, lì è... un po' stolta, però ok. Sì, comunque sì. So, magari poteva beccare anche Damasco, in effetti, poverina, cioè che non ha, proprio non prende niente. Mi chiamo come eravate, ragazzi. K era davanti. A dietro, no, guarda, credo che A fosse dietro dove hai fatto K adesso. Sì. E invece sì, fosse di uno più sposato a sinistra. Tiro riflessi? Cioè, guarda, tipo così. K qua, A qua, e qui, e... No, rifai, come che era K? No, no. Scusa, beh, vai, fai. K qua, scusi, cancella. Erano tipo K qua, qui A, qui E e qui D. Ok, sì. Una roba del genere, comunque. Sì. Sì, beh, più o meno, sì. O forse era... Possiamo far... No, sì, possiamo far... Potremmo andare entrambi su Eleni. Penso che entrambi su A. Oh, devo tirare. È vero, però potrebbero farne sì, uno così io, su sì. E, D. Sì, sì, faccio così, io. Prego. Ma così riprende due volte E, comunque. Ah, è vero. Beh, uno l'hai evaso, fatto 30. Uno l'hai evaso, quindi in realtà posso provare il secondo. Ma non hai evasion. No, prende la metà, però. Prende la metà. Ma è meglio che li prendo io che li prenda lui. Questo è vero, questo è imparato mio. Guai, ragazzi, avete un unguento, può usarlo chiunque. Infatti. Più che altro... Dai, no, mi sa che... Resta come ho detto all'inizio, non ti piace, dei... Va bene. Lo useremo sul nano, mi sa. Comunque uno di mezzi. Io no. Uno di mezzo, dai, vediamo. No, lo usiamo sul nano. Sì, si fa preferenza. A 40 danni sei preso il totale. Lo usate su di me. Ma sul nano. Allora... A 40 danni su. E sei preso pieno. Minchia, però, cioè... Potrà tirare un tiro di merda sto danno. Ho capito, ma cioè, sei preso dei danni. Devi ricordarti di curarti. Ma sono 40 danni, cioè, per me 40 danni sono... Cioè, c'aveva 40 danni addosso, non l'hai fatto curare. Anche lei ce li aveva, non si è curato. Non ci avevamo pensato. Cioè... 23. Vabbè, comunque. Adesso 108. Anyway, Khan. No, beh, tiro per il raggio che colpisce Khan e A. Cioè, no, scusa, ho detto che colpivo E. No, ho detto che colpivo Khan e A e A, giusto? Sì, Eleni e A. Questo è quello che colpisce Khan e A. Quindi io me lo faccio più. Aspetta, tu quale dei due hai dimezzato il secondo, direi, o il primo? Decidi adesso. Dimezza il primo, il dai. Primo. Ok. Un attimo, sono, allora, 10, che bel tiro. Madonna. 10, 22, e 5, 27, 27, 29, 34, 40, 48. 48 danni, dimezzati. Dimezzati 24. Quindi 24. Perché sono pieni. Dai, potrei farcela. A sopportare anche il secondo, quasi sicuramente. Beh, secondo non lo dimezzi. Però. Anche se ne fa altri 48. Magari tiro solo 6 adesso. Speriamo di no. Perché ti è stata la fortuna. Non è da escludere. Questi sono altri danni. Tu li dimezzi, Eleni, questi, giusto? Sì, ho fatto 20. Te lo giuro che fa 1. Dai, che ti ha aiutato. Dai, bene. 2, 4, 8, 9 e 5, 14. 14. Dai, questo è buono. Dai. Dai. Bene. 20, 25 e 9 sono 34. 34 più. Tu ne prendi 17. 58. Tu 34. 58 danni ho preso. Meglio. Dai, tutti gli allagnarsi, mamma mia. Beh, cioè, non avevi detto quanti ne faceva. Vabbè, 12 di 6, non sono pochi comunque. No, no, in effetti no. Beh, secondo tuo attacco è stato più... Perché ho tirato basso. Vabbè. Bene, bene, dai. Me l'ho dimezzato uno. Comunque, minchia, che CD. Sono un 25 non l'ho dimezzato. È alta. Bella cosa. Un 27, sì. Quindi sì. È lì in mezzo. Certo, ovviamente. No, di sai che mi sento che io vado alle palle lì. Cioè? Cioè, sono forte, sti qua, faccio... Era la volta quando devi vocare. Cazzo, è pochissimo. Beh, ora eri grapplato se non era per me, quindi eri quasi inutile perché... Sì, ma infatti, zio, vabbè, cioè, che guarda che ha fatto benissimo. Il fatto che... Boh. Comunque tocca a Damasco, che dice che le prudono le mani. Vai, inizio. Damasco. Quando hanno cazzo shot a P3 o P2. Non tirare P2, uno. P2, dai, più davanti lì. Ma, sì, sì, convergete tutti su uno. P2. Però aspetta, io ci sono uno della P. Quindi devi spostarti. Ma fai un passo a mezzo a botta. Se no non riesci a farlo. Ti interessa che tolgo P2 o P3? Tanto, va bene lo cioè, stesso. Massimo... Io faccio P3 se no, tanto sono... Ma no, ma vai su tutto su uno, secondo me. Ma poi tanto, cioè, se muore prima, poi... Cioè, esatto, poi cambiare i danni. No, ma scusa, sono 2, 4, 6. No, devi metterti qua perché non lo vedi bene, se no. Devi metterti qua. Fai un passo avanti. Devi metterti fianco a me. Vabbè, colpisco. 14. Vai, tutti gli attacchi. Grande. Ascolta, capiamo sta cosa. Cioè, tu, questo qua è tuo weapon fighting. Sì, se ti dico il deadly aim, o faccio deadly aim 1 o deadly aim 2. Ma questi sono 5 attacchi, no? Io perché non fai questi? Scusa. Ma scusa, no, dovrebbe fare, cioè, dovrebbe esserci un altro attacco, che sono 5 attacchi, a cui usa deadly aim. E sono questi qua? No, questi sono 4. Che poi non so perché il primo è più 12. No, perché sono meno 4, sì, giusto. Perché qua somma più 15, invece qua somma più 3 più 1, invece qua somma più 15. Ho capito, quindi... ma tu puoi usare il deadly aim con weapon fighting, quello è il punto. Quindi puoi usare il deadly aim qua, sarebbe no? Questo? No, questi sono solo 4. Non so cos'è questo, ma deve essere 5. Tu me l'avevi fatto, deadly aim con... No, si vede che hai sbagliato a ricopiarlo, tipo... No, sì, sono perché, sicura. Perché guarda, qua ne hai 2 al massimo, ovvero più 12 più 12, no? E anche qua, più 16 più 16. Poi però qua è soltanto più 7 più 2, mentre qua è più 11 più 11 più 6, quindi ne hai ricopiato uno in meno, semplicemente. Beh, scusa, ma scrivo un... C'è un altro più 7. Ho detto prima, scusa, ma hai fatto questo o questo? Hai fatto sempre l'attacco in meno, quello è il problema. No, ma è questo, no? Vabbè, tanto tra l'altro c'è anche Ace. Beh, un buon momento per cominciare a farli giusti. Esatto, fai questo contro queste. Hai fatto il game e fatto quello sopra. No, per ora non ho ancora fatto niente. Allora, qua devo aggiungere un più 7. Io non so perché. Per quello ti dicevi farlo su una parte, ma tu non fai più due lì. E non posso! Dove cazzo lo metto? Sono tutti uguali. Fai un altro sotto. Scrivi un altro attacco sotto. Tipo, io ho Falcon. Falcon Pagata. Falcon Power Gage. Falcon Gage. Falcon Gage. Va bene, allora faccio del game e tu vuoi non fai. E poi ci vuole questo praticamente. Non ci stavo le gambe del tavolo. Scusa, questo è. Se no le scrivi. Cosa fai? Allora, 1, 2, 3, 4, 5. C'è Ace? Sì, 6. Quindi ne faccio 6. Guarda che puoi sommare. 29. Con... Bravissimo. 62. 95. Aspetta, è morta? Perché sei su quella lì che è già su 140. Vabbè, poi li danni. Li distribuiamo poi. No, perché non sa. È vero. La cosa deriva. 1, 2, 3, 4, 5. Aspetta, ferma un attimo. Sono 5. Che non... Cioè, fatto c'è... veramente incredibile comunque che non siano. Cioè, che le piante non siano immune al preciso danno. Invece. Cioè... È così. Faccio il sesto. Ha fatto 152 danni. Sì. Ha fatto 152 danni e devi togliere da damage reduction. Considera che Bakari ha fatto 2 attacchi. 152 danni. Sì, ha fatto 152 danni e mi manca pure l'attacco. Ma fai conto che è su già 140 danni P2. Minchia, così tanti. Minchia. Due attacchi e un critico. Allora facevo subito un altro. Ah, vabbè, uguale. Allora. Ma è stramorta. 140. Circa 140, cioè, sono ne so. Bastavano altri 100. Quanti ne hai fatti adesso? 152. Allora fai l'ultimo quindi attacco 52 che era 32. Li faccio a P3, che se è morto P2 è 52. No, direi che ne fai una trentina. No, fai gli ultimi due attacchi, cioè, se ritira l'ultimo. Cioè. Ah, giusto, giusto. In che senso? Lo ritiro l'ultimo. Fai due attacchi su P3. Vai, due attacchi. 32. 58. Che figli di merda che hanno. Più 3. No, più 3, ok. Quant'è? 58. Quindi è morto. Guardate che, cioè, i vostri colpi sembrano fendere come burro nelle loro non difese. Che non hanno da maggiore reduction. CR14. Siete mai al bar, cioè. Ah no! Minchia che babbo, non muore un cazzo lì, no. Fermi tutti. Perché non muore? Perché ha ancora quattro ancora tre tentacoli. Anzi no, i primi tre colpi li devia. No. Cioè devo rifarlo tutto. Eh sì, ritira. Ritira per forza. Sono sei. No. Quindi sto di fare solo due attacchi. No, tre. No, tre. Tre attacchi. Solo tre attacchi, figa comunque, cioè. Vabbè, gli mancano 50 di 100, quindi... Nella media di 30 danni ad attacco. Ce l'hanno una difesa decente allora sti tizi, dai. Quanti attacchi tiro? 3? Beh, ci sta allora. Sì, 3. Ma fai conto che un tentacolo l'aveva già usato però, eh? 89. Un tentacolo l'aveva già usato. Sì, appunto, però non è 3. 89. Mi spiace, lì che eri tutta presa per la CH1 e poi c'è una stabilità qua. Vabbè, ci sta però alla fine del bilancio. E quindi? Uzi. Ora? Niente, fine. Tanto bene, 89 danni, non è ancora morto. Faccio sprecare tutti. Ma no, aspetta, forse sì. Forse sì, forse sì. No, però dobbiamo colpirli. Non hanno una CIA bassa, sti stronzi. Vedete, sono 10 sul dado. No, non li beccherebbero mai le invocazioni. Però, 89... Fare una cosa carina. Più. No. Scusi, belli. Tanchisani. Ma sì, l'hai ucciso lo stesso. Grande. Per 3 danni l'hai ucciso lo stesso. Rimane. Ma scusa, io quindi gli altri e tre. E terreno accidentato? Mentana. Ma quindi io gli altri tre colpi posso fare su più 3? E no, perché. E no, no, li ha deviati. Li tutti quelli. Li ha deviati, che idiota. Ma adesso non posso cliccare più 3, vero io? Perché è terreno accidentato. Giulio? Sì, esatto. Hai ragione. Quindi la mia borsa. È certo che non puoi caricare. È quella cioè, marrone. Infatti stavo pensando come risolvere questa cosa. Beh, io agisco dopo di voi. Comunque, dopo Damasco tocca al primo, che era Abram. Grazie. Tocca già a me. Di nuovo incastrata. Sì. Scusami. Un po' paura a mettermi... Intanto i gaggi possono sparare anche su di me adesso, volendo. Sì, lo so, però... No, volevo fare una cosa che ti permetteva di fare un full attack, però poi rimanevo un po'... Scoperto? Ho scoperto. Avete trasportato di... Sì, ti portavo lì. E non proprio una dimension guard. Grazie. Sì, però... Adesso c'è anche tu fisicamente lì vicino. Per sì, toccarmi. Poi mi teletrasportavo ma non abbastanza lontano da poter essere immune. E però se già sei, diciamo, isolato rispetto al gruppo magari non attaccherebbe. Allora, facciamo... Fammi provare. Allora, io faccio così. Faccio... un Wall of Ice. Quando è che tocca a loro? Ok. Preparo l'azione. Quando è il loro turno, che vedo che fanno il raggio... Ah no, però devo farlo... Sì. Il primo che lo va, faccio un Wall of Ice qui, overclockato. Zdang! Puoi farlo anche qua in realtà, eh? Scusami. Sì, così hanno un sì, buono, mezza per distruggerlo. Però distruggo un po' lo segmento. Sì, con un attacco, però non colpisce molto. Attraverso, no. No, un Wall of Ice si fa i danni al Wall of Ice. Sì, però è line. Cioè, capisci che anche quello dietro viene colpito. Ah, no? Giusto. Però non lo so. Perché essendo una linea d'acido, cioè... Sì, è un po' una cagata che passi i muri così, non lo so. Però posso fare... Wall of Force è diverso. Non lo passerà sì, mai. Sicuramente, però sto pensando. Cioè, perché... No, direi che attraverso i muri non passano. No. Passano attraverso le creature, ma non... Sì, infatti mi sembra un po' assurdo. Infatti, sì, sì, no, non passa attraverso i muri. Preparo allora l'azione. Quando vedo che stanno facendo il raggio, perché mi sono tanto solo di questi 5 feet, faccio un Wall of Ice. Non vedo, potremmo anche uscire, scusami, con l'alce del plane, senza l'altro. Non ci conviene, scusami, fai Wall of Ice adesso, usciamo, ci curiamo, riempiamo la mazziana di nuovo. Mamma mia, oh, che power play. Ma non è power play, è strategia, perché comunque c'è, cioè, sto vedendo che anche qui coso c'ha... Sembra su... che devi uccidere quel boss di Final Fantasy 12 che c'ha 150 Ah, The Reacher! No, no, 12, quello che ha tipo 50 Ah, minuti, sì, sì, quello lì. Devi continuare a entrare. Tiamat, no, no. Vabbè, comunque è Richter, scusa. Richter. Cioè, Come si chiama? Ma coup de grâce. Ah, già, giusto. C'è Khan che ha 20 pf, no? Del genere, 27, 23 pf. La prossima volta viene alla sessione. La cattiveria. Ma uscire lui. No mercy. No mercy. Beh, in effetti è vero, scusate. No, volevo vedere se era... Io sempre davanti. La prossima volta anziché andare a Bonn. Esatto. Com'era? Scusa, mi ricordo come le iniziative. Un nome con lo stesso numero di lettere del suo nome viene qua. No, esatto. Poi, vabbè, c'è un H anche in Bonn, quindi sì. H anche in Bonn. Non c'è. Ma come no? C'è un H in Bonn. Per me c'è. Ma va, disputa. Non è Bonny? Ah, forse, boh. No, l'ha scritto comunque prima. Nel senso che lui sappia come si scrive. Ma no, sì, Bonn. Infatti, Bonn. Due N e basta. Vabbè, la lettera è comunque giusta. Anche penso, senza. Sempre quattro. Khan sono tre, scusa mia. K-A-N. No. Non è K-A-N. Però tutti convergono poi su Baka. Strano, infatti. Per quello ho detto, magari... Ah, per non quello volevi fare. Sì, non se... posso, perché non posso. Anyway. Non posso, perché c'è il cadavere che interrompe. E se si interrompe... E non posso farlo passare su cose interrotte. E farlo passare su di me? Non posso. Ah, tanto mi sposto. Secondo di logo? Sì, beh, in quel caso sì, con due N, anche lui l'ha scritto così. In quel caso sì. Però aspetta, com'è l'iniziativa? Poi noi dobbiamo sfondare un volo fare gli attacchi? No, in realtà non è... E se lo fai così? Ragazzi, 36 secondi tutto questo avviene, dai, su. Dai, fallo come volevi, basta. Fammi pensare un altro secondo. Dall'altra parte... Ok, uno. No, dai. Quanto mi dai? 5 secondi. No. Uno, due, va bene, faccio tre. Il volo vice così, preparo l'azione. Ma tu. Lo faccio qua, guarda. Dove c'è Baka? E dico, Baka indietreggia! Ok, se su... perché sennò rischi di tagliarlo dentro. Sì, sennò lo uccidevano. Lo uccidono altrimenti. Beh, ma non riescono a... Ah, perché è vero, non c'è più la pianta. Però comunque c'è il cadavere, che è enorme, quindi un minimo di consigliamento dovrebbe darlo per l'acido. Come io non posso caricare, shut up. Il terreno accidentato non dà concealment. No, ok. Sì, era Gargantuan, però si accascia al suolo. Loro sono comunque alte, quindi no. No, infatti, facciamo così. Sulla linea, no. Baka indietreggia e preparo l'azione. Vabbè, vediamo se di più. E stai lì e muori. Scusa, no, esatto. Cioè, adesso vedrò come valuterà Baka la questione. Se Baka sarà disposto a integgiare. Io lo faccio automaticamente quando è il loro turno. Cioè, sì, sì. Ok. E tocca quindi a... Eleni. Allora... No, tocca prima a Khan. Prova a colpire... P3, che ha danneggiato con... No, nessuna danno. P1 allora. Vai. 3... Spiace, sono anche se forse fa il glancing 21 più 3, 24. 23. 25 cosa fa? No, avevo fatto del bien con 18, quindi niente. 21 più 1 22 fa glancing, quindi minimi dadi e di mezzi. Quindi cosa, uno sul dado, giusto? No, devi tirare, sì, esatto, uno devi più tirare 6, il dado più 6. Più 6 1 più 6 7 no, no, no, no, di lì hai mai detto, scusa. Non è più 6. No, è più 12. Ecco. Più metà dei fissi. Ah, in questo, no, è tutto si fa a metà. Ah, scusa. 1, quindi più 12, 13. Beh, non cambia niente in effetti. In questo caso. Quindi 6 danni. E lo deviano. No, e lo devi. Sì, minchia, lo deviano. Era già glancing, cioè. Vabbè, se deviano tutti gli shot. Beh, non deve decidere prima del tiro, di deviarlo. Ah, no? No. Vabbè. Vedi tu se farò deviare o no. Secondo me avrebbe senso, lo devi, non è che sa quante cioè, foto. Flat Arrow, cioè non è che devi decidere prima che ti colpisca di usarlo, quindi... Però prima dei danni. E ho capito, però sapendo che è un glancing blue, a prescindere che hai tirato, non cambia niente. Ma non è un immediate danni, cioè. No, è la prossima attacco d'opportunità. Ah. Cioè nel senso... Sì, sì, ho capito. Ok, usa il quando vuoi. Cioè, sì, no, è... se riprende, cioè. Figura. Speravo di fare spettacolo. Ok, grazie. Quindi vabbè. Non ha da mangiare d'action, capisco da questa cosa. No, ti ho detto che i vostri colpi sono lamentato. Ok, anche, giusto, è vero. Dimmi. Però evidentemente l'ha messa perché sono già molto forti contro quel cancello e frecce, sennò poi era troppo debilitato. Sì, certo. Quindi ci sta, dai. Tocca a... Eleni. Allora, io avevo pensato, però a questo punto non lo so, di avvicinarmi a P3 e fargli raggio rovente, ma a questo punto... Fagli raggio rovente da distanza, è proprio quello il bello di raggio rovente. Eh sì. Ok. Da quanti anni sei bene? Cioè, sì, stiamo le volte. Mettiti qua, guarda. Sì. Sì, dico, viene spostarci da fare dal gruppo, no? Monteresti sempre dietro la linea. Eleni, qua. Vedi. Lancio il D20, giusto? Vai. Sì. 20. 20. Bravo. Conferma il critico. No. Ma cos'è? Però è touch, aspetta. Sì, sì, perché hanno uno dice a touch, confermato. Vai, fai raggio rovente, sono... Quindi è critato tutto... Ah no, il primo raggio. Quindi 8 dadi da 6. Vabbè, scusa. Esatto, sono 8 dadi da 6. E poi deve... E poi deve rifare un altro tiro. Ma li mette tutti assieme, tanto deve fare altri tiri. Ah... Allora, ok, giusto. Solo 8 da no, più altri. No, altri 8. Sì. Tonno. Così è divertente. Ne mancano forse altri. Contateli. Altri 2. Allora, sono. Quanto fanno 5, 10, 12, 14, 16. Vai. Che vuole, non fare il babino. Mi dispiace, amore. Allora, mi aspetta, aspetta, cosa mi sono questo non capita spesso, per fortuna. 11, 12. Ma sono 5-5. Sì, comunque. Quindi 22. 22. Da quando crit ti lanci i dadi. 22 cioè, più. Vabbè. 22 più 4, 26. 26. 28. 34. Stiamo perdendo. 40. 45. 52. Grazie. 52 danni. Minchia. Un raggio molto caldo. Ma non lo devo fare ancora. No, basta. Okay. Direi che va bene così. No, perché qua ho scritto tre volte per quello che ti ho chiesto. Perché tre volte? Scusa, due volte. Baca. No, ho scritto tre volte. Ho sbagliato. Io. Seguendo l'ammonimento di Abraham. Decisamente. Di quanto? Beh, tu hai 33 e basta, non sa di quanto. Vabbè. Quello che vuole. Vado. Beh, dall'altezza di Ero. Sì, però volevo mettere in modo tale da poter caricare, no? Quindi... Ah, giusto, bravo. Mi metto qua. No, qua. Qui riesco a caricare, giusto? Da qui. Dov'è sì. Il pennarello, scusate? Qua. Qui baca? Sì, ok. Caricare. Va bene? Sì, sì. Ok. In modo da non creare linee, forse qui la linea la crea, però vabbè. Vabbè. Vabbè, tanto c'è poi vuole. Vale anche così. No? Dici bene. A più uno fa un passo in diagonale verso baca. Che palle. Cosa vuole fare più uno? Quindi va qua. Sì. 4 e 4 così P1. E P3 fa un passo in mezzo avanti. Oddio, che roba. Ok, cancella pili. Cioè, cancella questo. Sì, sì, sì, cancella. Fastidioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cazzarola. Fatto giusto lui si sì, lo prende 4, 5, 6, 7, 8, 9, però adesso rifaccio il muro, no? Ti piacerebbe? Eh sì. Più uno non fa niente. P3 invece, cioè, vedete i suoi tentacoli allungarsi a dismisura. Ah, perché non faccio il muro di default, solo no, se è detto, mi spiace. Va bene, sì, sì. Loro tra l'altro, cioè, se non sai se non lo fanno perché non possono, perché non vogliono. Quindi più uno non fa niente. Eh no, magari ne capisci che magari perché non possono. Ma ne avevamo uno al giorno, deve ricaricare. P3 invece attacca coi tentacoli Eleni. E prova a grapplarla anche. Cioè, con grab. Il primo attacco... Ah no, il primo attacco un corno, deve farli tutti assieme. Grazie. Eh sì. Uno, uno, uno. 12. No. Allora. Mi sa che la prende. Però 24 di CA. No, no, no. Non è CA, è CMD. Ah, non ha fatto niente per quel piano. Ma 13 anni, giusto, sì, no, sì, prima sì, avevo sì, scusa, scusa. 24. Sì, vabbè. Somma 12, credo. Ok, colpisce con tutto, sì. Quanto basso. Daniele, 17. No, oddio, aspetta. 12. Non posso fare niente di questo. 35, 24, 10. Più 1, 25. 3 volte, scusa, 3 tentacoli. A 25 non mi ricordo. 25. 3 tentacoli, vai. Ok. Danni e grab. Esatto. Non so se... Ma se uno la grab, se io faccio il grab, poi può farle ancora gli altri tentacoli dopo, sì? No, perché no? Ricordi la tota l'hanno fatto tipo così con lo scorpione con me, che se mi prendevano potevo attaccarmi e mettermi giù, fammi gli attacchi e riprendere. Non può farglielo all'ultimo. No, però, cioè... Io lo fai all'ultimo, se no. Faglielo all'ultimo. Non è quella la questione, perché uno in grapple può attaccare. Infatti, allora posso. Lui non poteva fare il full... Ah, perché non puoi fare il full... No, ma sì che puoi, scusa. Ma ti ricordi la tota con lo scorpione mi ha detto no perché mi aveva preso, mi aveva forse preso abbiamo giù. Forse abbiamo sbagliato, perché in grapple mi pare che puoi fare puoi il fare gli attacchi assolutamente. Tutti, cioè. Tutti. O era un solo attacco con un'arma leggera? No, mi pare che farli tutti. Poi giri normalmente con armi naturali. Questo grapple di merda. Vabbè, comunque è complicatissimo. Ma se no fai. Cosa devo fare? Non ci sono iniziamo a fare terze parti a usare così. Per il grapple non devo fare niente. Dovrei inventarci. No, però sì, comunque. Vabbè, Danilo, domani inventa. Su. Inventa a fare. Infatti, no? Esatto. 13 danni, tanto per cominciare. Sono gratis questi, eh. Sì, gratis. Vabbè, senti, prova comunque col. Da dire che la grabbla con che la grappa. Non so perché. Per, cioè, metti che tira un 1 sullo CMB e quello è fatto. E ma va. Mi è arrivato. Ma va, ti dai. Usa il mio dado per quello. Dai, facciamo subito il grapple. Lo fa su tutti. Sai qual è il problema? Ah, sì, come ho capito qual è il problema comunque. Che dicevo prima, si può fare il full attack dopo. Okay. È che se tu vuoi mantenere il grapple, devi usare una standard. Se vuoi quello ho fatto. Ecco perché allora l'altra volta. Ok, comunque. Ma fa. Dov'è? E poi so. Fai un sacco di uno. Mio. Si sono tutti da questo questi, no? Sì. Ok, mio non sono. Mezzo miglio. 20. Vabbè, tanto poi. 31 CMB. Beccata, cioè, comba, cioè no, scusa, CMC sarebbe combat manual check. 14, cioè. Questo? Sì, cazzo, a me non mi prendo. Beccata. Sì, ma perché fa meno, fa meno 10, tipo. Minchia. Okay. Ah no, scusa, è meno 20 deve essere. È meno 10 o meno 20 quando se non vuoi entrare anche tu in grado. Meno 20 mi pare. Però non lo so. Cioè, meno 20 è tantissimo, cioè. È proprio sì. Tanto, sì, però se ci pensi è una roba complicata, però un gargantino. Non cambia molto, in realtà, cioè, tra non entri, cioè, non prendi delle penalità, ma cambia molto se tu sei in grado o no. Beh, insomma, puoi usare la roba. Non so, forse meno 10. Vabbè, comunque, fa anche gli altri, cioè, gli altri attacchi sono invece... 9 più 12. 21 danni. Vabbè, non la può grapplare questi attacchi. Vedi un po' se è meno 20 o meno 10, se riesci. Pensavo stessi guardando quello. Grapple. No. Greater grapple. Ciao. Grapple. Devi guardare grab, più che altro. Con vabbè. Combat manover. Ah, grapple combat manover no? Sì, no, forse c'è. Se cerco io. Damage pin, tie up. If you are grappled. Guarda che se devi cercare grab comunque. Ah, grab, sì, forse sì. Mi pare che farlo solo 6 grab. Grab. Special ability Universal Monster Rules. Meno 20. Meno 20. Ok, anche il secondo allora lo fa sempre... No, beh, mi chiamava meno 20 è impossibile. Quanto hai CMD? 14. Ah, è 14 CMD? Ah, allora col primo, anche con col primo con meno 20 ce la faceva. Devo guardare combat manovre. Sì, CMD. O questo CMD 16. Ti ha presa col primo. Allora niente, sei grapplato e non è grapplato. A posto, sei in uno dei tentacoli. Tu io no, senza i tuoi. Io non avevo niente che fare con le gare. 55. Ah, la grabbi tu. Non tentacoli. La cosa gargantua. E vedi che ti cade per il tentacolo, la piantano, vieni qua. Quindi fa altre cose? Vai, no. Ti tocca. Sembra... spero Damasco. Ma perdo l'incantesimo se non è successo? No, non credo. No, rimane bloccato. Non ho fatto niente. No, dicevo per il mio che non triggerà. Appunto, non rimane, diciamo, fermo. Sì. Fino a che non... Toccava il primo che è... No, tocca Damasco, non agito. Ah, tocca Damasco, scusa. Volevi far saltare il turno a lei? Dai, P3. Vecchio furbone. Sciotta P3. Diventa. Cosa fai con la penna? Il mio è 6, vero? Sì. E vai avanti fino a dove c'è B. 2, 3, 4. Esatto. Dov'è il cosino? Dance. Ma può muoversi se fai così l'attacchi? Fa no, un metro e mezzo basta, mi muovo. E vabbè, dopo mi mettete, troppo in là. Attacco. 20, 20, 20. 20? Ah. Sul dato. Magari. Cerca di impegnare. 20! Grande! Conferma! Confermo questo critico, ci attacci uno anno mi pare. 13. Ah, confermato, sì, sì. 20. No, no, no, 13. Confermato un critico. Più tutti gli attacchi. Quindi fa 8 attacchi più uno di quale è critico. Bene, dai, direi che dove devi tirare? No, sì, perché potrebbe ma devi deviarli. Uccidere entrambi. Dai, devi deviarli, Ah, è vero. Devi al critico? No. Ovviamente il critico è lo devi. No, non puoi farlo. Avevi detto come facevi lanciare i dadini! Li lanci comunque. No! Ma li devia? Cosa li tira a fare? No. Lancia gli altri. Tristezza. Quanti ne ho di attacchi? 8. 8. Ah, invece 8. Anche lei? Sì, sono 7 più noi. No, ne ho 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, ne ho. Facciamo. Penso che ne hai sempre fatto uno in meno. Ne hai sempre fatti 6. Sì, ma no, perché? 6. 7 allora. E tiene 3. Ma no, ne? No, sì, 6, giusto. Sì. Sei, che? Ma perché diventi? Ah, ne hai sempre fatti 6. No, no, ne ho 5 più il suo 6. Ah, 6. Okay. Sì, ok. Allora ne hai sempre fatti 6. Perché sei. Non me l'ha deviato il critico. Maledetto. E fa niente, non devi più. Devi anche i primi 4. Quindi fai... devi farne 2. Farne 2. E infatti c'è anche una pippa, continua a mancare. E te devi assolutamente. Ah, ma tiro direttamente i danni? Sì. Di 2. Se vuoi puoi tirarli appunto questi. Vabbè, tirali... No. No, perché è troppo poco soddisfacente. 25 e 30. No, minchia, quel 20. 56. No. Cazzo, è un bel 20. Tra l'altro anche chiamato. Era così bello, era anche chiamato. 56? Era anche chiamato. Chiamato. Però ti ringrazio per averci tentato. Non si chiama. Vedi che in qualche modo è lì. Ok. Non vedo favoritismi in questa sessione. Mi è piaciuto che... cioè... Io voglio favoritismi in quanto tale. Poverina. No, vabbè. Un numero uno davanti. È il PG più forte, basta. No. È il PG più forte, per bastarti come favoritismo. Anche no. Allora, poi tocca a Canna, che magari riuscirà a fare qualcosa adesso. Visto che ha... dolce amore del master. Dai, diciamo così. Dice... Oh, 16 più 21, 37. Su? P3. Ok. Quanti ne fa? È iniziato il turno, quindi c'è ancora l'attacco di opportunità. Li fa tutti, penso. Cioè, no, quanto somma? 16 più? 21. Ho fatto quello non del di ah, okay. Dillo però. Sì, vabbè. Se vuoi ti dico 16, direi che... cioè, nel senso, se no, non mi sembri in malafede. Cioè, no, cioè, te l'ho detto subito, in realtà. Sì, sì, no, vabbè. Ok, diciamo... quindi 16 più 21, 23, cioè 37, no? 37 più 1, 10. Allora, 3 volte. Quindi tutte. No, aspetta, con la flore sì, tutte. Quindi tutte, sono... tutte, però i primi 4 vengono deviati, quindi devi farne solo 3. Per lui fa 7, no? Segna il key point. Anche. Sì. Quindi solo 3. Non vengono deviati, perché? Perché è iniziato il round. Che sfiga. Primo. Vabbè, però deviati. Almeno la deviato. Almeno lei farà gli attacchi adesso. 17. Certo, se non muore. 17 più 18. Se non muore la pianta. 17 più 18. 7 più 18. Ti ha guardato in modo. 27, che cosa dici? 35. 35. Se non sbaglio. Sì, 17 più 18, 35. Sì, wiki point. Vabbè, almeno l'ha sfruttato. Va bene, dopo Can. Dovrebbe toccare. Damasco. Ah, toccava prima a te di Can, scusa. Ah, sì? No, tocca prima. Scusa, 20 feet. Ha fatto 27 l'iniziativa. Lui ha fatto 20, lui ha fatto 23. 20 feet radius spread. Allora tu hai fatto 20 passi. Ah, 20 feet sono 4 quadretti. Bene. Io vado. No, lo riesco a colpire comunque. Su P1. Ma Davide, tutti nella stessa strategia. Cioè, prepara quella roba lì. Se fanno il gaggio. Ma ormai quello lì va di colpi. E questo qui, più che fargli fare sta cosa, io gli faccio così. Gli faccio un bel. Ma che si chiama? Aspetta. Non Obscuring Mist, quello a distanza. Si chiama. Fog Cloud. Bello. No? Per siccome loro si sposta un pochissimo, ha 50% di miss chance. E niente, fa qua. Sì, ma non ti ha detto niente. Per domani mattina ho fatto che Fog Cloud non c'è praticamente niente. Attimo. E lo faccio. Scusa, com'è 40 feet? No. Cioè, radius, 20 dice. Feet radius. 20 feet radius. Vuol dire che è 4. Così, giusto? Così, giusto? Sì, sì, sì. Partendo da un punto centrale qua. Sì, così. Quindi, così. Così, ho fatto bene? Mm-hmm. Mi sembra abbastanza buono così. No, è nato. Cannato, perché? Sì. Così. Non è così. Ah, no? No. Ecco. Cosa ho pensato? Dobbiamo tipo prendere sulla carta lucida le varie nebbie e tenere. Ah, così! Ah, figo! Sì, vabbè, sarebbe figo. Vabbè, basta calcare sulla carta lucida. Ma perché è così? Perché è così. Che se conti, questi qua sono dentro. Ah, perfetto, cioè, bene. Questi quadretti qua sono allo stesso raggio. Perché lui vede. Non fa niente, perché vede così. Può fare eventualmente il raggio. Farla un po' più su, puoi includerlo dentro. Dai, poi lo faccio io. Adesso lo faccio la io. Puoi spostare? No, lo faccio subito. Voi giocate intanto. Ah, ok, bravo. Va bene. Quindi tocca a Eleni. Che è grapplata. Che raggio lo vente? Non puoi lanciare in... Ah no, sì, puoi. Che puoi, però contro una CMB, una CMD impossibile. Non puoi castare se è grapplata. Cioè, puoi fare una prova per riuscire a uscire dal clap. Ok. E cosa, cos'è? Di 20, cos'è? Riflessi? No, proprio colpire con la spada. No, è chiamato al cuore, Davide. Può picchiare con la spada. Perché? Che vedi che solo è un quadrato. Così. Due, così. Oh, madonna. Ma posso... Aspetta. Ma non puoi. Lei può picchiare con la spada. Sì, quello sì. E posso fare sia il tiro salvezza che picchiare con la spada? Non c'è nessun tiro salvezza per ora. No, per uscire dal grado, dice. No, quello non puoi fare entrambe le cose. Sì, giusto. Adesso è giusto. Io ti consiglio di picchiare. Va bene se ci sei di uno in meno. Adesso scendere di due. Ah, così, vero. Ah, è vero, sì. E poi di uno così e di due così. Questo è proprio. Se il master si impara a disegnare i cerchi con i quadrati. Così, così. Non lo so. Due. No, beh, fai il primo attacco. E due. Ma quanti attacchi può fare con una? Qui se la tieni una mano? Può fare full attack. Può farne solo due, però. Sì, sì, lei fa due. Scimitarra normale. 14 più 19. Ok, 33. 33 più 10, 34. Ok, colpisci due volte entrambe. Quindi vai, con 2 di 6. Di 20. No, ok. Tutto questo per una nebbia. Adesso si sposta. 9 più... 20. 20 fa... 29. 29. Io mi sposto, adesso così lei non sa dov'è. Dove sono? Sei invisibile? Facciamo la somma. No, qua. Non sono invisibile. È vero che non sei più invisibile. No, vabbè, comunque. Non so, avrebbero fatto. Lei ha fatto l'attacco. Fa due attacchi. Non l'ha proprio scappato. Adesso io carico P3. Mm-hmm. Tanto P2 non dovrebbe prendere, no? P1? Sì, P1 non sa dove sei, innanzitutto. Lo sa? No. Ah. Cioè, a meno che non abbia modo di vedere attraverso il tuo cloud. Morta? No. Ah. Devo preso il cancello un po' forte. Ma è detto, che bello. Ho fatto la somma, semplicemente. Non utilizzi più il mio metodo che vai sempre a scavare? No, fa schifo. No, è ottimo invece. Se si sente, fa schifo. Poi? Bacca. Carico P3. Dov'è il dado bianco? Ma ci arrivi? Nuovo il quadro. Non ti muovi a quadro. Il doppio. 5. 5 3. Così, però sì, comunque sì. 5 più 1. Sì, poi comunque non ti muovi di... Cioè non c'è armatura, no? Vai, tira. C'ho quella che non mi dà penalità il movimento. Sì. 5. Peccato. Vabbè. Faccio comunque un 32. Vabbè, fatemi fare una cosa figa, fare queste piante. No, in realtà, scusami, c'è anche la carica, perdonami. Sono allora 5, 31 34. Più 3, 34. Più haste l'hai calcolato? Sì, ho calcolato. Da 4, 2, 2 sì, come Minchia. Lei. Esatto, 2. Sì. 2. Più haste, 3. Cioè. Ah, quindi minchia. Sono 4. 5 sul 9. 9. 4 e 4. Questo è il dato standard. 9 e 17. 17 più 93. 17 più 93. È morta lo stesso. Bene. Posso? Sì, puoi. Grazie. Posso. Se vedete col nuvolone lì, il cazzo fate, stronzo. Beh, intanto lei è uscendo dalla porta e la lasciamo lì. È dispellable. Lo lascio lì nel mio turno e poi... Cioè, lo lascio lì nel suo turno. Io prima di uscire... Oh, tocca a lei. Alla piantina? Cosa fa? Visto che non sa neanche dove siamo. Solo Khan è rimasto dov'era. Io dove sono? Damasco non c'è più sulla mappa, perché? Ah no, lei si era spostata qua, l'aveva detto. No, sì, bravo. Perché ti ricancellato. Magari qualche senso particolare. Sembra lì lontani. Io mentre nella 5 Bacca si è spostato. Bacca, lo so, guarda che lo vede Bacca è da lì. Perché? C'è la nebbia. Ne, ma cioè la nebbia diventa fitta dopo due quadretti, tipo. Io comunque sono qua, quindi sì, da qua. Sì, quadretti di nebbia, intendo. A creature entro 5 feet a concealment, oltre 5 feet a 50% di miss chance, total concealment. Total, appunto. Quindi? Però lì la nebbia, cioè, capisci che non... Tu dici qua. Esatto. Però in effetti Bacca è giusto uno sotto. Mm. Che sfiga, penso. Perché la piante va qua. Però se va passa un metro e mezzo in avanti, cosa che fa? In quel caso sì, lo vede. Spostami la pianta avanti di uno verso Bacca. Che arriva se non c'è un modo di picchiare Bacca. Tu stai in front. Non è che ho molta scelta, ci vuoi stare tu? No, infatti. Vogliamo fare il cambio? Io provo a castare e picchi? No, usa i tentacoli anche su di te. Non che cazzo fai il coming at me, stronzo? Cioè, la lanci da lì? Scusa, col tentacolo? No, taci, no, che no, si avvicina? No. E senti, non potrebbe essere? No, non potrebbe. Perché no? Non si può, deve essere a portata per fare il coming. Cioè, da qui non ha neanche il 20% di miss? Direi di sì, che ce l'ha. Ce l'ha. Vai. Vai. Oddio, non lo so, perché è proprio al limite. Confido nella missiva. Non so. Entro 5 feet... Sì, che lei vede fuori così, no? Sì, direi di sì. Dai. Non ce l'ha. Beh, no, c'è la missiva 20. Tanto, tira un tiro del cazzo col dado. Vai. No, tirato buono. Tutti e quattro tentacoli, direi così ad occhio, perché non c'è del cavolo. Sì, ho 20, quindi. Poi la cago nella mia. Iniziamo a fare prima i danni e poi... Ah, ma lui c'ha freedom of movement. No, vuoi graffarlo, poverino. Vabbè, no. Io ho 35. Ti avviso che sono 35. Non serve comunque. Hai successo immediato, automatico in tutte le prove di grapp. Sì, è tipo... 10. Madonna. E 12, 22. Più? Più 24. 46. Ci siamo impegnati, Abbiamo addosso 103 danni. Cosa vuoi? Beh, problema. No, ne ho ancora... Dai, non mi avete fatto mangiare nessuno, che ne non ancora mi ancora come io? Potevo mangiare... Oh. Erano altri 4 livelli negativi se ti mangiava. Io guardo il più e faccio... Comunque più devi lasciarlo il cadavere per il terreno accidentale. Ah, scusami. Vabbè, dai, tanto non ci vai. No, probabilmente adesso scappiamo. Ok, scappiamo, è codardo, mamma mia, solo perché 103 danni addosso. Bacca non piange per 43 danni, ricordo. Proprio no, guarda. No, master, è cattivo. Infatti tu fai il cattivo, infatti vedi che le piante come sono state potate subito da Bacca. Potate, Bacca giardiniere. Madonna, veramente. Bacca passione giardiniere. Bacca pollice verde, si chiama il pollice. Che cazzo facciamo? Tu un giardino è un problema. Chiama Bacca. Bacca sradica. Baka non risponde, diventa le danni a danni a cosa. Esatto. Se la tua casa è demolita, sono... Chiama Baka. Non ha subito neanche danni, infatti però è quello. Però spostati. Ah, non ha proprio preso neanche un danno, secondo me no. No. Cioè, fatti qualcosa, capito? Non l'avete mai attaccata. Non me ne conviene neanche caricarlo, perché... Dai, usciamo e curiamo, cioè al massimo si fulla, non credo che generi altri... Si fulla cosa? E appunto è full, dai, usciamo. Full. Usciamo. È tirata! Usciamo. Estraiamo... Beh, usciamo, la Damasco tocca dopo la pianta, Ah, giusto. Ok. Ritirata! Siete allenati. Damasco! Io corro verso di lei. Posso... No, scusa, non corro. Tutti vedete Avram che si concentra e sparisce da dov'è. Arriva da Damasco, la tocca sulla spalla e in modo rapidissimo si teletrasporta fuori dalla porta. Sì, ma aspetta, non puoi. Ma cosa no? No, lei non può fare l'animation draw con me. Vieni tu vicino a me sì, e che... io la faccio. Perché è un incantesimo e devo fare la il TS. E lo fai. Lo fai. Non c'ha il TS, mi sa. No, sì, ce l'ha. Sì, certo che ce l'ha. Sì, ma c'è giusto. E no, per superstizioso sono obbligato. Vabbè, lo fai se muori, cazzi tuoi, ci godo. Fai il TS. Uno. Ma poi perché lei non può, non può venire lei da te? Super. È uguale. No, non è uguale. Beh, no, almeno lui può scappare. Allora, tu vai da lui, lo prendi e fai. E lui fa il Dimension Dog. Fallo overclockato, mi raccomando, così c'è una CD un po' decente. Per i 13. Comunque, tu la passerai sicuramente perché sono i 10.000. 13 più. Ci godo. Crepa. 15. 15. Crepa lì. Stronzo. No, non voglio entrare nella porta. Siamo tutti fuori. Eleni qua. E io. Ci sono le Diamine, la prossima volta non ti salvo più. Quanto ci godo, guarda. Quanto ci godo. Canne. È tu, no? Comunque, sì, prima tocca a te della pianta. Canne, esce qua. Guarda quanto ci godo. Questa porta è aperta. Chiusa. Non sai se è chiaro o no. Per gli attacchi di opportunità comunque. Sì, esatto. Però se tu non puoi... Sì, no. Io muovo al quadruplo, esco dalla porta. Adesso sì. Ah, è vero. Faccio. Infatti adesso c'era Damasco, infatti perché, ecco perché ti avevo interrotto. Ma ti riesci a muoverti al quadruplo? Mi muovo di... Adesso te lo dico. Dove è scritto? Di 6 quadretti, immagino sarà. 6 per 4, 24. Sì, sì, alla grande. Ma c'è in mezzo la piana, no, sì, che ce la fa Baka qua. Stupida magia, non serve quando hai le gambe allenate. Ok. Vabbè, ci cuiamo. Bravo Baka. E col fiatone, ovviamente. Ecco, oh, bravo, non farti teletrasportare, continua a correre. Questo era importante che tu raggiungessi lui, così almeno se lui superava, almeno poteva scappare in qualche modo. Ok, ci curiamo, non so cosa faccia la pianta, però tiro fuori una bacchetta Infernal Healing e in ogni round 103 pietre, lo faccio su ciascuno, supero automaticamente la prova. Io sono uscito dalla liga, quindi la supero. Bravo. Quindi in un minuto 10 PF, minchia, e stiamo fuori tipo una decina di minuti. Sì, io ho 100 danni. Siete state un po' lontani dalla grotta. Sì, sì, certo. Sì, beh, in una zona che vi teniamo sicura. Quante cariche usate la bacchetta? Io devo avere 100 PF addosso, ho 100 danni. Parecchie, perché ogni carica tu hai 10 PF. Beh, ma a me va bene. Ditemi 10. Quanti PF. Tanto io 103. Basta di danni. Vabbè, già chi sono. Fai 180 tra me e Khan. Tanto non cambia niente. Quindi 180 PF. Aspettate, che una ventina di 18. Dico anche. Aspetta, 180 più i miei danni che sono 79 meno 5, 21. Eleni? Ne ho 51. Danni? Sì. Più 51. Damasco? 23. Minchia, 275, quindi 28 cariche. Una bacchetta? No, mezza bacchetta, un po' più di mezza bacchetta. Ok. Passano diversi minuti, tipo mezz'ora. Torniamo dentro. E poi rientriamo. Ma penso che la nuova si sia dismissata. Sì. Ci aspetta fuori? No, aspetta lì proprio al lato della porta. Allora facciamo che guarda lei, ma che qua non facciamo un cazzo, avete detto entriamo. Cioè. Sì, ho detto ci aspetta lì. Infatti immaginavo. Cioè, Bene, sì. Tutto, non è che una volta che dico che è lì, allora guardavamo. Vabbè, cioè, non ti mente, no? Ma sì, se ne frega. Oh, cazzo. Tanto mica prende lui i danni. Ma sì, ma infatti, prende bacca. Quanto te le baccate le usi te? Io mica ve le pago. Sono mi shot nella notte, mi uccido la notte, prende le bacchette. Dai, allora, vado da giù. Facci sì, attacchi d'opportunità, bacca e via. Che castello dentro bacchetti? Mo, cioè, tentiamo, il tuo colpisci, vai. Non è vero. Mi sembra proprio una ricostruzione assurda. Vai. Dai, attacco opportunità per Baka. Aspetta, posso dire che almeno è un'ira? Puoi arrempiare, sapendo comunque hai dovuto affrontare una roba. Sì, dai, grazie. Sei ancora in freedom of movement perché dura 10 minuti per livello. Minchia. Eh sì. Posso? È bilico, ma è un 15. Posso? Coming at me. No, perché è un po' lontana dalla porta. Ma come? No, è sulla porta, no? Quindi appena entro, io apro la... È deficiente, perché dovrebbe farsi colpire meglio quando entrate. Sposta, infatti, sta lontana. Ma è portata quando serve. Vai, fagli sti danni. Vai. Ma sì, quante storie, mamma mia. Lo eretti. Vabbè, non intendevo così. Dai, vabbè, ma lì ci sta alla fine, no? Così va bene? No, ne, così. Ma dove? Oh, figa. Ma dove c'è? Minchia, così tanta di reach. Ah, è qua. No, io pensavo fosse qua. No, no, è lì. Comunque, qua. Intendo, così. Ah, là. Ok. Ok. Il Baka pensi che è lì sul fondo. Quindi è sì, Baka è qua adesso. Perché non ho contro il mio personaggio? Comunque la prima iniziativa, in teoria. Ah. O tieni anche la vecchia. Vedi tu. Dai, tiriamo. Magari faccio un tiro meglio. Scusa, dei. Questo è coso. Uccidere. Come l'ho detto? Ottimo. Cos'è quello? Io ho fatto due, guarda. Se mi sia la prima volta che tiro. No. Che faccio un'iniziativa così bassa. In realtà. Padre, oggi quanto hai fatto? Storia. Un 16. Io ho fatto un 1 e 2. Ma chi è che ha fatto più di 0? Di cosa, scusa? Hai detto di prima di lei, allora. Io. Io ho fatto. Dove? Kill it. Posso agire? No, che agisci più quante fai haste? No, non posso più. Perché? Ma dai, non usate haste, shottatele basta. Ok. Dice Avram. Esatto. Shottatela. Vabbè, ah. Avevo un attacco in più, no? Non posso farlo. Faccio Shocking Grasp. No, va bene. Niente, niente. Okay. Non puoi fare io quello di fuoco. Ragionamento. Tanto uno, sono meno uno. Cioè, sì, ne ho solo una. Basta, poi non ho più. Sì, ok. Inizio. 5 più, ma con la scimitara lo certo. Lontano. Lontano. Non c'è allora non so se l'ho beccato. No, sei touch, giusto? Sì, sì. Allora sì. Beccato sicuro. Se hai fatto più di uno, l'hai beccato. Ha fatto 5. Mi dai il pennarello? Cosa tiri? 4 di 6. Vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I dadi si stanno scaricando. È tardi, i dadi si scaricano. Iniziano a dire, insomma, ci stai scoprendo. Allora, quanti danni? 10. È il primo. Ah, scusa. Sempre col di... No, beh, uno col 10. Vai con altri 4 dadi da 6 e poi altri 4 ancora. Oh, no, devi colpire... No. Ha colpito tutti. Eh sì, perché ha fatto sì, 5, sì, però... Vai, vai. Allora, vuoi che li faccio direttamente? No, falli, tiro due volte. Bene. 11, 12. Dai, andiamo avanti con questa farsa. 12 su. Più 4. 12 più 4, 16. 5, 6. 5, 10, 11, giusto? 11, quindi. Basta. E stai sommando tutti? No. No, dovevi dirmi, andava bene. 11 più 10. E il secondo fa 16. 11 più 10 più 16, ok. Ah. Fa 37. 16, mm-hmm. Ok. 37. E no, il quarto, no? Sono 4 o 3. Poi, vai, Baka. No. Sono 3, giusto, gli attacchi? Sì. Sì. Gli attacchi. 4. Sì. Ma tu non ti devi spostare per andare a portata? Eh sì. Ah, tu lo punzi, lo punzi. No, le riesco. Quanti attacchi fai? Penso poco, no, di merda. No, non riesci. Vai. 31 faccio. Fai un attacco solo perché ti metti accanto a lei. 7. Con 31 la colpisci due volte. Sì, ma oh, si è mosso. Okay. Beh, ma carico, no? Sì, ma come fa a uscire, carico? Ma no, perché, cioè, inizia come quando lui entra nella stanza. Ah, allora sì. Vai, colpisci due volte. Allora scusami, sono 34. Sono 34. Tira il cancellato. Allora sono 34. Sempre due volte? Sì, okay. due volte. Sono 35 e 38 il primo attacco. Secondo attacco. Ma non avete capito qual è la mia disperazione. Ma perché? Cos'è 35. Ah, però loro non fanno quell'altro. 38-35 fatto. Vi mettete troppo in line, che vi ricordo che... Dai, tocca a Khan. Khan si mette qua. No, la fa quella teleguidata. Ma va, bisogna... Cioè, intanto una sola deve fare. Allora, mette qua. Un attacco, però lo devierà. Vabbè, poi deve colpirlo, no? 11 più 21, 32. Deviato. No. Non può fare attacchi d'opportunità perché è una combat reflex. Allora disperato. Però. Tanto lei fa un attacco solo. Però fa un attacco solo. Quanti danni ha fatto Khan? Scusa? 6 più 6, 12. Perché più 6? Perché avevo fatto il primo, appunto, pensando che lo deviasse. Ah, ho capito. No. Ah, perché tu dicevi mi serviva colpire con tante attacchi. Giusto, giusto, bravo. Ok. Ci sta. No, boh, non ha senso, però devi fare un attacco solo. Comunque. Tanto devi fare un attacco solo. Ah, però tu dici devi essere sicuri che lo devi. Che lo colpisci, cercare. Sì, sì, giusto. Ci sta. E tocca a Damasco, giusto? Che si posiziona entro 6. Cerca di colpirlo. Fit. Gli fa un attacco che però. Critico. Che non verrà deviato. Critico. Vai giù. Critico. Critico. Crittalo. Dai. Si mica sempre domenica, eh. No. Colpito. Però io vorrei farti notare la vicinanza. Ma per un pelo non era 20. Perché non è più domenica. Guarda che ore sono. Esatto. Esattamente. Mezzanotte e mezza. Se fosse capitato mezz'oretta fa, guarda. Era giusto così. Dodo, quanti ne devo fare? Uno. È uno stato solo. Perché hai cancellato ti sei mossa? Hai cancellato troppo la Bina. Quindi in qualche modo ha fatto una sorta di attività. No. Te lo dico io. 23. Ma perché ne fa così pochi? Vabbè, minchia, una volta che tira basso, cosa ha tirato, scusa? 23. Ha tirato 2 e 6. Vabbè. In effetti 6 con 4, un 3 di 6 è proprio una merda, minchia. Però è andata così, vabbè. No, quello di solito tira abbastanza più. Ma fa, guarda che li fa tutti così. Vabbè, è un caso, dai, non rompere. 26 hai fatto. No, visto, ci sono anche dei 30. Era 26 o no? Sì. Minchia. Ma non va più. Vai, tocca la pianta. Toccherebbe Avram, che sta fuori. Avram, c'ha lì su così, die. Ah, belli, vi abbiamo messi proprio in line. Colpa mia. Non mettetevi in linea. Vabbè. Bravo. Non so se potrebbe colpire anche B, dici. Ah, perché era attaccare. Va. Quello che vuoi. No, dico... Ah, è vero, minchia, faccio. No, però non, so, non sopravvive, quello è il punto. Perché non sopravvive? Cerca di scappare, fa 4 feet. Quadruplo della velocità. Come l'albero parlante. Cioè, 4 quadretti, volevo dire. 20 feet. Vai, fai quello che vuoi. No, stavo pensando se fargli fare il grapple, ma... Il fatto è che, appunto... Transfer azione standard. No, move action. Ah, move action! Dai! Ah, allora facciamo fare sta cosa così, mi diverto almeno. Transfer, che figo. Allora, lì davanti c'è Buck, Khan, su Khan che non è presente, quindi mi sembra giusto sfogarsi. Giusto, giustissimo. Ok, allora su Khan prova a entrare in grapple col tentacolo, azione standard. Ok. Mi piace anche la CMD alta, cioè, ce l'ha. Però non ho usato almeno 20. Certo, non ho usato almeno 20. 23. Quanto hai CMD, Khan? 23. 23. Allora niente, va, ciao. Preso. Ok, è in grapple col tentacolo, con l'azione di movimento lo sposta nella bocca. Gli spara e quindi segno. Prova a inghiottirlo perché non è un'azione, basta che fa una. Se è in grapple e fa, può fare una combat hardware check contro Khan per mangiarlo giù. Toma lì. Poverino! E ci riesce abbondantemente. No, ha fatto bene! Mangia... No, Khan! Allora, innanzitutto si prende comunque i danni del tentacolo. È indigesto! E prende 9 danni. 9 danni. Povero Khan, io non glielo dico. Ah no, non c'erano, scusa, perché ha fatto la standard action per entrare... Nah, ok. Vabbè, così. Vabbè, è uguale. In realtà no, l'ha fatto col tentacolo. Per... No, però così non c'era altro per colpire. Mm-hmm. Ok. Vabbè. E poi, entrando nella pancia... Cosa succede? Prende... X mila di sé di acido di digestione. No, prende soltanto 4 dadi da 6 di acido per ora. 4 dadi da 6 di acido? Beh, è pochino. Conviene sperare che Kang non inizi il turno là dentro. No, perché... Vabbè, lui è full, no? Ah, perché sì, perché si trasforma. Infatti avevo pensato che sarebbe stato... 10 e 4, 14 danni a Kang. Io so, mi ricordo, no? Quello che mi ha detto. Chi è che ha agito per primo di voi prima? Eleni. Poi ha agito Kang, giusto? Cioè Kang ha agito in fretta prima. Sì, abbastanza, agito. Perché ha agito, secondo, allora... Secondo Eleni, agito Kang. Poi ha no, agito... Prima di me o dopo di me? Baka. Non mi ricordo se ha agito prima o dopo. Non mi ricordo. Poi tu. No, beh, Baka ha agito subito, sono quasi sicuro. Sì, anch'io. L'ho poi agire... K e poi... Ah, forse Baka. Ba e K. Quasi sicuro K, okay. D, poi A che non ha agito. Va bene, allora sì, cazzo. Se ha agito dopo Baka, via di Baka era interessante. Sì, era interessante, sì. Così diventa un po'... Devo sperare che Baka ti basta, ma mi sa comunque, neanche se così è. Vabbè. Ma perché è così? Succedeva poi, cioè, veniva trasformato in un soggetto schiavo di queste piante. No, va, scusa, mi chiedeva così in fretta. Cioè. Ah no? No, minchia, che forte, hai visto che facilità l'ha fatto. E cioè. Infatti. Va c'erano tutti i turni, se no. Quindi poi... tocca a noi, no? Cioè tocca a Eleni. Sì. Vai Eleni. Vai così tocca il gobbo lì. No. Tu che vuoi. Finiti. Vai tranquillo. Come finiti? Finiti. Sì. Shocking grasp. Ok. Forza. Due, colpito. Un peso. Andate a dotare? Due. No, è dotare. Chiato due, ma... Shocking grasp. Colpito, colpito. Non è touch. Non è a distanza, non è touch. Ah, è vero, non è touch. Usa la chitarra, ma... No, lei dice... È vero, non è a distanza Shocking Grasp. Devi avvicinare. No. Eri qua. Ah, ok. Allora sì, per forza, devo avvicinare. Non riesce ad avvicinarti. Quindi no. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ah, non riesce neanche. No. Frostbite è a distanza? No. Non riesce a fare niente. Se non è una roba a distanza, passa. La G20 l'hai finita, letto? La G20 sì, ne ho usati tre. Ma non ce l'hai... Cos'è il primo? La magica colpo, colpo. Se volete ho frigid touch, ma non so se è a distanza. No, touch. Fai haste. Ne è ancora uno. Ma perché devi sprecare? No, ma perché devo sprecare? Tanto adesso poi andiamo a dormire. Poi ma va, chi l'ha detto? Ma veramente? Cioè, io sono stra mega iper full. Ah, okay. Oh, va bene. Pensavo posso... volessi riposare. Qua. Perché se lei ha finito le cose, invocazioni di test. Sì, ma ha finito solo due Scorching Ray. Ma sì, dai, una cosa qualsiasi. Tanto se non riesce a fare niente, ti sposti solo qua al limite, esatto, dello stesso raggio. Esatto, sposti e basta, esatto. Quindi... Beh, limite, no, è quello dietro, cioè, anzi, è dietro, è Damasco il stesso raggio. Magari si sposta anche tipo qui là, giusto per non essere lì. Cioè, in realtà, i tentacoli arrivano praticamente ovunque. Minchia. Quindi, no, cioè, nel senso, non... già lì dove era, non era all'interno. Vabbè, dai, passa il turno. Ti tocca a Baka. Baka. Ti assicuri che Baka ha agito prima di Khan? E io non me lo ricordo. Cioè, perché tu l'ho fatto io, quindi non saprei dirti. Non sicurissimi. Mi pare di sì. Fai 50-50, a me pare, dai, di sì, perché hai cancellato, poi hai riscritto, poi cancellato e poi hai riscritto dopo di me. Pare che Khan... Scusa, fai 50-50, se no, no? Fai 50-50. Non ci ricordiamo. Poi sì, la registrazione... Fa niente, ci fa dirà. Niente. È come l'arbitro nelle partite di calcio. Sopra 50 agito prima Baka di... Cioè agito prima Khan di Baka. No, agito prima Baka di Khan. Okay. Ok. Sopra 50. Sopra 50 buono. No, male. Ok, quindi... agito prima Baka. Vediamo cosa succede, sono curioso. E infatti così vedi cosa succede se Khan fallisce il TS. Vai, lo faccio io? Sei sicuro? A vostro rischio e pericolo? No, sei sicuro, Dave? Sì, lo faccio Giorgio io. Giorgio ti uccide. Io lo faccio. Io sono messa a tempra. Faccio io. Dai, a 12. Allora. Eccolo! Ah, 15. 27. 27? 27. Chi è che vedo? Forte. Dai, facciamo 25. No, no, abbassiamolo un po'. Sì. 27. Ok, prendo i livelli negativi. Minchia, cosa faceva se non si fa falliva? Minchia. E cosa segniamo qui? Due livelli negativi? Dovete segnare il meno 2 tutti i per colpire, i TS e basta. Diciamo che lo scriviamo e poi se lo farà lui. Sì, vabbè, ma saranno temporanei, credo. No, forse no. No, c'è la fila per questi meno 2 livelli negativi. No, devo essere no, curata prima di sono io. Permanenti, io visto che non è specificato, non lo so. Non sono quelli permanenti. Ok, certo. Sono quelli facili da togliere. Certo, certo. Vai, ti tocca. Il mio turno. Baka. Tiro per colpire. Dai. Sei! Che sfumato! E insomma... Vabbè, dai, ce la fai... Ti ho fatto, scusami, perdonami. Ce la fai lo stesso a colpirlo almeno un paio di volte. Sono 32. 32 cosa faccio? Due volte lo colpisco? Sì. Vai. Sì. Magari lo uccidi anche. Sono 5. 5. 4, 9. 9 più 62. E 71. 71 danni. Morto. Eh no. Quindi alla fine non è cambiato niente. Mm. Perché non ha fatto haste, vedi, se non l'aveva fatto. Sì, è vero. E mi spiace. Lega morto. Però tanto. E tocca a Damasco che, lo so, sfracella, muore di brutto. Però ancora... vedi, spiri uno. Ma scusa, io ci arrivo. Comunque Campo te a provare a uscire nella sua... Ah, scusa. Minchia, anzi, che era facilissimo che uscisse comunque. E perché non l'hai fatto fare, scusami? Non mi sono incavito. Vabbè, tanto adesso muore uguale, dai. Mm-hmm. Ma se ho finito a far uscire dalla pancia della pianta. Yeah. Vedi se tiri uno. Ma ci arrivo. Ho tirato uno. L'ho tirato adesso, quindi... Vabbè, non è vai Damasco, vedi se tiri uno. Questo dado ha finito di... Da lì, 6, 3, 3, 6, fare un passo a metro e mezzo avanti. Ecco, mi spostate. Perché? Per fare tacchi touch. Ah, giusto, vero. Sì, dai, vi sono stanchi. Tiri sotto 10. Ah, sono stanchi. Cos'è? Colpito. 7. Dai, boh, tutti morto, figlia. Bordello di... Puoi tirare. Crivellato. Vai. Hai tanto cialappo. Distruggilo. A te sei obbligato. Ma no, ma adesso ha agito, quindi ti devia comunque. Ah, giusto. Sì. Però muore lo stesso, mi sa. Con tre attacchi. Quanti attacchi danni ha su? Cioè, devi fare tre attacchi. No, non ha più haste, quindi solo. No, haste non c'è. Due attacchi. Chi che ha fatto haste? Due attacchi. 32, 38, 22. Chi che ha fatto haste? No, due attacchi. Chi che ha fatto haste? Sono i primi due. Allora non ce l'ha haste. 32, 38. Non ce l'ha. Infatti, ma solo due attacchi. No, solo due attacchi. Due attacchi, È morto comunque. Ok. Due attacchi. Benissimo. E crolla questa, quest'ultima piantazza. Ovviamente appena crolla. Tiriamo fuori subito Khan. Esatto. Bacca. Lo squarciamo. Esatto. Deve riuscire a uscire. Squarcia la pancia. Quanti round esce? Lo squarci... La puoi da fuori? No, scherzo, dai. Se non è morta non penso che sia questa vita. No, infatti. Cioè, se è morta... Lo squarcio da fuori. Esatto, Bacca. La sventra, mandando pezzi di corteccia ovunque. E strike cane tutto avvolto in una sorta di muco schifoso piantoso. Lo prendo per la treccia. Esatto. No, no, la treccia, la barba, però lo prendi per la barba. Lo prendo per la barba, lo dio fuori. Veramente disgustoso. Ho visto di peggio. Immaginate che voi vi siete visto. Che anche veniva preso e ingurgitava questa pianta intero. Non è la prima volta che vediamo succedere. Ma le persone sono assenti, ci sono sempre cose interessanti. Sì, è vero, a quelle persone. Usati con nonchalance. Esatto. Vabbè, ci sono anche bravi. Scusami, non è che abbiamo andato avanti, era due poche. Non è che ci siamo dimenticati che c'era Khan nella pancia. No. Quindi dai, va bene. Cioè, era un po' più aperto. Va bene, ragazzi. Allora, chiudiamo qui. Allora, tutta la sessione sta battaglia. Sì. Vabbè, però perché stiamo... No, abbiamo anche combattuto contro i cinque tizi, siamo... Ah, già, è vero. Ma scusate, abbiamo iniziato con un altro combattimento. Sì, con un altro comunque, questo combattimento era forte e difficile. Era bello... Sì, era difficile, sì, c'era l'altro. Sì, sì. In totale. Erano 3 CR14. Per la prossima volta livelliamo, credo. Sì, sì, sì, sì. Livello 15. Livello 15 sta prendendo un talento. Sì, talento. Decisamente. Cosa sta prendendo talento? Hai tutta la settimana.